Gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ragazzi miei, eccoci qui, è cominciata la zanzara, 800 24 00 24, siamo in diretta da uno dei centri del potere mondiale, l'Europa, il Parlamento Europeo. Ma noi iniziamo con una canzone che riguarda Matteo, non perché abbiamo Matteo in studio, ma perché c'è Matteo Renzi che non se la passa bene in questi giorni. È vero che deve ancora cominciare, domani forse ci sarà questo grande piano sul lavoro e vedremo in cosa consisterà questo piano, sul lavoro. Vedremo se ci sono i quattrini, il Danè, perché poi alla fine i bluff vengono fuori. Ma sentite cosa dice di Renzi quello che è stato a lungo il suo braccio destro. Ve lo ricordate Reggi? Quello che era il suo uomo di fiducia durante le primarie perse con Bersani? Adesso sottosegretario all'istruzione, ripagato della mancata candidatura in questo modo, Reggi, il quale arriva in commissione ieri, se non sbaglio, e ne dice di tutti i colori su Renzi. Dice, lancia Renzi, dai i numeri, ha detto. Lancia razzi in orbita nei talk show, fa lo splendido. Reggi. Promesse in ciuccia elettorale. Vi faccio un esempio di quello che succederà mercoledì prossimo. Quello che vi posso dire, perché Matteo fa lo splendido, va nei talk show, no? Lancia razzi in orbita e fa, perché ha questo talento oggettivamente, no? Però stiamo ancora preparando i dettagli, come potete bene immaginare, no? Quindi no, non sono proprio dettagli, ecco, tanto per parlarci chiaro. Bravo. Beh, devo dire la verità, se c'è una cosa che è la caratteristica principale di Reggi, io me lo ricordo benissimo durante le prime primarie, scusate il gioco di parole, di Renzi, è quello della sincerità. Dice, dire le cose come stanno. È uno che spara le cose così e poi vediamo, C'è uno che spara, come si dice in siciliano, a muzzo, a caso, insomma, no. Sentiamolo ancora, dice: tutti i numeri che sentite sulla scuola, 2 miliardi, gli investimenti, tutti falsi, ognuno ha i suoi. Che già partecipavi. Tutti i numeri che sentite sono tutti falsi, perché nessuno lo sa quanti soldi hanno in tasca i comuni in questo momento, pronti, disponibili per l'edilizia scolastica. Nessuno lo sa. Non è un caso che Matteo Renzi abbia chiesto in una lettera: ditemi quanto vi manca, perché nessuno lo sa, se non il singolo sindaco sul suo territorio. Ma la somma di tutti, nessuno la sa, nessuno la conosce. Moralista, whatsappista, pure un po'. Voi vi rendete conto di... Per carità, gli inciampi quando uno inizia un'avventura governativa. Che inciampi, beata sincerità del signor Reggi. Anzi. Vabbè, però un'altra botta gli è arrivata oggi a Renzi da Bersani. Qualcuno ci dice: siete troppo contro Renzi. Ma il compito di chi è qui al microfono è di essere sempre contro. Al timone. Ce lo diceva l'altro giorno Giuliano Ferrara. Tu fai l'anchorman radiofonico, non fai il cantore di qualcuno. Devi essere sempre di natura contro. E noi questo facciamo. Bersani, senti questa cosa qua. Renzi vuole indurre la movida. Chi è che ha il cellulare acceso? Chi è che ha i telefoni accesi? Se trovo quello lì col telefonino acceso, Bersani. Renzi è lì da quanto? Da qualche settimana. Quindi. Però già sta promettendo molte cose. Ha visto? Riforme ogni mese. E lì, io capisco anche questo. C'è un meccanismo che per indurre, diciamo, un risveglio di fiducia. Di movida, diciamo, in questo paese, naturalmente alza le aspettative. Questo comporta dei rischi. È giusto, invece ha dato la fortuna. Vai a Matteo. Avevi detto: o cambio Fiorenza o cambio mestiere. Ecco, io un'idea ce l'avrei. Aria, vai! Rizzitelle e Andersen. Ciao Matteo! Vabbè, c'è casino come al solito nei 5 Stelle per il senatore Pepe, ma lo sentiremo più avanti. Beh, oggi sono saltate anche le preferenze. È il giorno in cui sono state scoperte delle cose incredibili su alcuni gruppi consiliari provinciali in Trentino, no? Che pare abbiano speso dei soldi, 67 euro, di soldi nostri, anche tuoi, anche di quell'uomo che è qui accanto a noi, per comprare dei vibratori e altri oggetti erotici. 67 euro, virgola, tot, per comprarsi il i vibratori. Il partito sud tirolese Freilichten avrebbe speso 64,92 euro per un vibratore. No, vibratori e altri oggetti erotici, un vibratore 67 però euro. Però è meglio focalizzare l'attenzione. Tu sai quanto costa un vibratore? No, però penso. Onorevole Sabine, lei sa quanto costa un vibratore? Buonasera. Non saprei, buonasera. Non ha mai comprato un vibratore in vita sua. Non ho mai comprato un vibratore. Io sì, devo dire la verità. Ma se l'avessi fatto non mi vergognerei. Però non c'è mai stato occasione. Tu hai comprato una volta delle bambole gonfiabili, ma per fare una protesta fuori dal comune di Milano. Ah, però le bambole gonfiabili servono anche altro, come lei sa. Sì, ho comprate apposta perché c'era uno. A un sexy shop le comprate? Eh certo, le bambole gonfiabili. Cioè, lei è andato in un sexy shop. Questa è la notizia. Matteo Salvini, segretario generale della Lega Nord. Federale, quello della CGIL. Avevano fatto la protesta, non so se vi ricordate quando avevano messo questa opera d'arte, i manichini impiccati in piazza 24. Sì, Cattelan. Una schifezza quella totale. Quella bellissima opera quella di Cattelan. Quella roba meravigliosa. Imbarazzante. Meravigliosa. E noi avevamo appeso 3 bambole gonfiabili davanti a Palazzo Marino per protestare contro quella e schifezza. E sono andato in un sexy shop. La bambola gonfiabile la dovevo in pescheria. Voi comprate le mutande. Voi comprate le mutande. Ma le ha pagate. Pagate cota ste mutande. Beh, però comunque se le fate rimborsare dopo. No, se le pagate ste mutande. Vabbè, detto questo, non ho mai comprato un vibratore. Ho questa lacuna. No, ma lei sa che il partito Freilichten sul Tirol. Però hanno smentito questo. No, ma sai che ma sono. Si dicono questo che dice Freilichten. Sono alleati con la Lega questi. No, amico mio, no, si alleano con la Lega. Lei si eccita l'idea del vibratore. No, io mi eccito l'idea che si alleano. Si eccita l'idea del vibratore dentro i mutandoni verdi. Certo. Detto questo, poi non so. Roma ladrona, ma anche l'Alto Adige, amico mio, non è che scherzo. Beh, guarda, l'autonomia se la gestiscono bene. Non so lei quanto frequenta Trento e Bolzano, però si sta da Dio da quelle parti lì. Però, se no. Vabbè. Però... Se hanno comprato un vibratore, hanno fatto una vibrata. Ovviamente. Io comunque, ragazzi, io l'ho comprato una volta, che vi devo dire? Ma questo non io l'ho comprato. Io non mi vergogno a dirlo, tu non hai coraggio di dirlo. No, ma non l'ho mai comprato. Non sei mai entrato in un sexy shop? Sì, sono entrato, ma non l'ho mai comprato. Scusa, per vedere, come fanno quelli che entrano e vedono e non guardano. Ma che guarda... Con gli occhiali scuri. Perché non hai mai guardato un sito porno? Sì. Ma certo. Tu pure l'hai guardato il sito. Ma anche film. Sono arrivato a 41 anni senza guardare siti porno. Sei pieno di siti porno? No, pieno di siti porno, adesso no. Capitato. Ma tu sei cresciuto... Ormai non ci sono più giornaletti. Ma erano meglio i comizi di Bossi o i filmini delle signorine? Ma se tu avessi Renzi ospite, gli chiederesti se sono meglio i filmini porno? Ah, questo par condicio, amico mio. Par condicio. Questo è bene. A 16 anni chi non ha sfogliato? Ai tempi c'era Le Ore. Quando ogni tanto ci vai su YouPorn. YouPorn è il sito più visto in assoluto nel mondo. Il segretario della Lega va su YouPorn ogni tanto? Per capire in come... Passato sì. In passato sì. Adesso no. Adesso guarda il segretario Roma. Adesso tendenzialmente faccio altro. Mi diletto con altro. Anche se il Milan non dà più soddisfazione. Però tra il no euro... No, euro noi il 29 marzo cominciamo a raccogliere le firme per abrogare la legge Merlina e regolamentare la prostituzione. Oh, queste ipocrisie proprio non mi toccano, anzi spero che voi siate fra i primi a firmare. Io sono il primo, posso essere il primo? Guarda, a Milano ci sono gazebo, no, ma io nei voglio comuni essere... di tutta Italia. Allora, possiamo fare questo annuncio alla raccolta di firme di Matteo Salvini della Lega. Non so quello che... Per me è uguale. Non 29 e 30 marzo cominciamo. Voglio la prima firma, forse dopo la tua, però voglio la seconda. Se è la tua la prima, la mia la seconda. Facciamo a Milano, tu sei residente a Milano, quindi devi firmare a Milano. Vengo il 29 di marzo. Tanto ci saranno in comune anche a Roma, quindi Parenzo non puoi scappare. Ma 29 marzo Salvini e Cruciani firmano per abrogare la legge Merlino. Assolutamente. E riaprire le case chiuse. Assolutamente. Perfetto. Allora io voglio dire una cosa. E anche il primo cliente vuole essere il signor Cruciani. No, no, quello che c'è. Ma tu lo fai. Però anche una firmetta per abrogare la Fornero dopo. Ma no, la Fornero no, bisogna alzare l'età pensionabile. Vabbè, fino a 75 solo... anni. Bravo, 75 bravo. Anni. Però scusi, segretario della Lega Salvini, lei aprirebbe un quartiere a luci rosse a Milano? E certo. E dove? Dove esattamente? No, per esempio. Non ho la pianta alla Bovisa, all'Ampugnano. No, no, fammi dire. Allora, il principio è che a Milano oggi ci sono in mezzo alla strada anche alle 10 della mattina. Anche su Monterosa sotto il sole 24 ore. Anche alle 10 della mattina. E quindi, siccome è un mestiere, siccome voglio pagare le tasse, li togliamo. Ma un quartiere, qual è il quartiere? Case chiuse, ma non farmi anche dire sotto quartiere, il mio, anche sotto il suo quartiere, ci vorrebbe una casa. No? Ci vorrebbe un bordello sotto casa. Piuttosto che averla sua. In mezzo alla strada, io ce l'ho all'angolo. Anche sotto mezze casa nude, mia. Anche sotto casa mia, che problema c'è? Ma questo qua è ottimo, perché molti dicono controllato sanitariamente. Molti dicono facciamole, però sotto casa mia non ce le voglio. No, e perché? Ci mancherebbe altro. Non sono uno di quelli che nasconde i problemi. Anzi, Siamo qui 800 24 00 24. Qui abbiamo Matteo Salvini che sembra un pirata perché congiuntivite. No, non mi ha picchiato. Non potete vedere perché è la radio, ma ha una benda, c'ho la benda bianca. C'ho la benda bianca, non nera da pirata. Una benda bianca per una congiuntivite. Che è successo? E c'ho scritto basta euro sulla benda. Questo lo dovresti scrivere. C'è il sito bastaeuro.org. Fissato lei con 250.000 libricini gratis scaricati. Parenzo, lei l'ha ma fatto? Ma non si può uscire. Io sono per l'euro. Come non si può? Io sono pro euro, pro tilateral, pro trilateral, pro Bruxelles, pro Merkel. Sei il peggio del peggio del peggio. I parametri non si devono sforare, anzi, se, perché come, ma sforali te, non bis, devi sforare, perché chi è che c'ha il giocatore? No, dai, l'ho spento. Vabbè, comunque sei il sì, Europa, no alla doppia sede Strasburgo-Bruxelles. Vabbè, questo grazie, costa però 200 milioni più Europa. Ma come fai a dire che l'euro ci aiuta? Poi, scusami, ma solo un cretino può continuare a sostenere che l'euro fa una bene cosa. Come ti sei fatto male? Non è l'euro, sono i ladri. Il fine settimana in Val Camonica, io sono abituato allo smog di Milano, vento, sì, aria, sole, l'aria buona, microbi, e quindi quando io quando i milanesi escono da Milano e vanno a respirare l'aria buona si ammalano, è matematico. Capito, ma che è successo concretamente? Qualcosa? Sei andato a sciare, hai preso il sole? Sì, sono andato a sciare con mio figlio il giorno del mio compleanno, 9 marzo. Auguri, grazie, abbiamo, in ritardo. Abbiamo scialato, weekend di poi altonale, non sono andato a weekend altonale, soltanto altonale. Anzi, saluto tutti gli amici della Valle Camonica. La telefonata allora, Roberto è arrivato, no, per dire auguri Matteo. Comunque, è arrivata la telefonata di Bossi per gli auguri, no, no, figuriamo. Perché? Invece Maroni ha chiamato? Maroni mi ha mandato il messaggino. Invece Bossi ormai ti odia talmente. No, no, ma perché? Perché siamo lavoriamo bene, ho convinto anche lui della necessità di uscire dal pensionato ormai. Che fa dalla mattina? No, fa il deputato, era sì, Roma. Sì, vabbè, il deputato. No, il deputato. Io mi occupo di della Lega, Bruxelles, di Strasburgo, della Lega e dell'euro che piace degli a Parenzo, a tre banchieri. E l'euro, ma tu lo una butteresti moneta criminale. Giù, questo palazzo lo butteresti giù? Poi, fisicamente, Strasburgo, lo bombarderesti? Bombardare, io sono pacifista. No, però ma vuoto, lo chiuderei. Ma no, non si. Le bombe no. Lo chiuderei. Sbriciolare. È abbiamo votato 4 volte per chiudere questo palazzo. Non una, ma 4 volte. Ci costa 50. No, ci lavora 40-50 milioni sì, di euro. Per lavorare 48 giorni all'anno. Ma cioè, per noi è anche scomodo. Abbiamo fratello. Il privilegio di essere qui uno. Perché questo palazzo dal quale trasmettiamo. Questo palazzo non ha senso. Lavora solo 48 giorni all'anno. E ma noi siamo qui in uno dei 48 giorni Parenzo, in cui i signori dietro il dentro lavorano e sorridono. Ma solo tu per 48 agiti, giorni e poi difendi questa Europa. No, no, io difendo Bruxelles. Perché questa Europa dei trattati, dei vincoli, ma dei vabbè, deficit. Ma provate pure voi nel passato, è questa, dai, questi è questa la tua Europa. Meglio questa, se ne può uscire di quella di quelle regioni dove si comprano vibratori con e mutande. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. E ancora qua siamo. Non mi moleste moschito. Se lei permette siamo ancora qua. Poi quando ci cacceranno significa che avrà ragione lei. Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord, europarlamentare, qualche assenza di troppo perché uno 80% di presenze, 91% di produttività. Si deve fare più, le hanno dato del fannullone qui al Parlamento europeo. No, un belga vabbè, contro belga cui ho votato, belga, ma pure Ciccione. Ha fatto no, Ciccione è l'ultimo, anch'io non sono magrissimo. Ha fatto una direttiva appalti pubblici che è una schifezza perché vabbè, non ha dato del fannullone subappalti. E lei ha fatto pippa, ma io gli ho detto guarda, se la direttiva è questa io non te la voto, non vengo a seguire le tue cazzate. Allora, Del Debbio ieri quando ti ha invitato a che cosa ti ha detto? Vieni apposta perché c'è la bella. No, sì, detto, sì, no. Ti ha detto così fai ascolti. Ma no! Sì. Io ieri sono sicuro, conoscendo le 4 al Fate Bene Fratelli a Milano al pronto soccorso oftalmologico. Lì io con l'iPad riprendi la benda documenta la benda di Salvini. Sì. Allora, e mi hanno messo il collirio, l'antibiotico. Io ho chiamato il conduttore della trasmissione dicendo: guarda, c'ho la benda, non so, lui, televisivamente parlando, magari fa schifo, fa impressione. No, ha ragione. Mi fa: no, no, vieni, va bene così. Ha detto, non è che ha detto va bene. Detto questo, siccome si parlava di Europa e di euro fra persone serie perché non c'era Parenzo e noi abbiamo potuto documentare come fuori dall'euro riparte il lavoro e il consumo dei prodotti italiani, ma Parenzo. Si può uscire dall'euro. Si può uscire dall'euro, non solo le tavole ai suoi elettori, su. Ma dove c'è scritto che non si può uscire? Si può, anzi si deve. L'euro è finito. Non l'hanno avvisato che l'euro è fallito. L'euro è una moneta fallita, quindi noi ci stiamo preparando al dopo. Vabbè. Al dopo guerra, al dopo però adesso euro. Non è che può diventare l'unico tormentone questo qua. Capisco che è il vostro tormentone per la campagna elettorale, però non è che può essere l'unica cosa di cui si parla. No, ma c'è anche il federalismo. Grillo ci ha dato ragione dopo 20 anni. Ah, Grillo, a proposito. Grillo ha detto che le macro regioni, l'autonomia, fino all'indipendenza. Il regno delle due Sicilie. Lei lo vorrebbe il regno delle due Sicilie? Ma io stimo tantissimo. Sì. Sì, sì, certo, domani mattina. Stimo tantissimo l'orgoglio e l'autonomia siciliana e i prodotti tipici siciliani, che questa Europa ammazza. Ma Roma è fallita come città, dovrebbe fallire... Roma come comune, sì, è drammaticamente fallito. Fosse un'impresa privata avrebbe già i libri in tribunale. Il comune di Roma dovrebbe essere dichiarato fallito, dovrebbe essere mandato un commissario, sì, un casco blu dell'ONU, per... nell'interesse dei romani anche. Caschi poveretti, blu dell'ONU, pagano una cifra di tasse per una città disastrata. Non è che Milano stia molto meglio. Vorrei far sentire a Salvini e a tutto il popolo della radio della Zanzara collegato quello che ha detto il sindaco di Roma Marino a proposito delle periferie romane. Una soluzione per le periferie romane. Il sindaco di Roma Marino, sentiamo. Io questa mattina ho fatto un giro in diverse scuole della nostra capitale. In una scuola, in un quartiere, ho visto che c'erano delle aiuole molto mal curate, delle piante che non venivano curate da tanti anni. Ho parlato con i genitori e ho detto: se io invio qua coloro che si occupano dell'ambiente e portano via tutte queste erbacce, tutti questi alberi e metto della terra, voi vi impegnate a prendere cura e insegnare ai vostri bambini delle elementari a seminare i pomodori, il prezzemolo, l'insalata, e così avremo un orto dentro la scuola e la possibilità di formare dei bambini. Insomma, questo significa vedere positivamente. Poi si può... Vabbè. Oh, questo è il sindaco di Roma. Sindaco di Roma, che... Questo è il sindaco della capitale. Allora questo è il sindaco di una città che ha 12 miliardi di euro di debiti e si dedica a piantare i pomodori. No, ha detto: se io vi restituisco. Ma è normale. Se io vi restituisco. Ma hai un debito di 12 miliardi. Ma come lo giudichi? Come lo giudichi, Marino? Non è all'altezza, non vabbè, è in grado, è giudizio... è incapace di fare sì. È del nord, Marino. Ma cioè, meglio i caschi blu, meglio la Merkel, meglio la Merkel a Bolzano. Meglio la Merkel a Roma? No, ma la Merkel non è mai meglio. La Merkel meglio di Marino, non è sì. mai meglio. No, ma no, se lei no, ce l'avesse davanti, cosa le direbbe la signora Angela Merkel? No, ma la Merkel fa i suoi interessi. Io sono gli italiani che dovrebbero farsi. Ma la definirebbe come la definisce la Merkel? Giornale, ha usato l'euro per farsi i cazzi suoi e salvare le sue aziende, aiutare le sue banche con 300 miliardi di euro, vendere BMW in tutto il mondo. Siamo noi che dobbiamo riprenderci comunque, la nostra moneta. Lo sai, Matteo, che a me piacciono i vibratori, quelli doppi. Oh, a me piacciono quelli doppi. Sono arrivato a 41 anni senza amando usarli. Delle L'hai donne usati qualche volta che no. non hanno mai usato non il vibratore. Non hai mai usato il vibratore adesso con finisco la trasmissione. Spero che la Giulia non ci stia ascoltando. Sì, sicuramente ci sta ascoltando. Trasmissione no, finito. Perché che trasmissione? Ci siamo sollazzati in altre maniere senza vibratori. No, ma non no, parli così con la sua compagna. Io non ho fatto nessuna ma domanda. Dice? Ma a sinistra sembra che se uno non usa il vibratore adesso. No, ma io sono d'accordo. È un minus. No, però, Matteo, su Matteo, questo sono d'accordo con lei. C'è a sinistra qualcuno di donne che sinistra che incontro ogni tanto nelle moltissime trasmissioni in cui vai che ti fa veramente sangue? C'è una persona. Di belle donne ce ne sono, solo che se lo dici sei sessista. La Boldrini manda un'interrogazione. La Boldrini, lasciamola perdere, che già. Beh, la Boschi. Non, la Boschi è una ti fa sangue, bella donna. Eh? Non mi fa sangue. Una che ti fa, c'è una che ti fa sangue. Leghista. No, perché sta dire una bella donna. La Moretti è una bella donna. La Boschi è una bella donna, sicuramente. Bella donna, vabbè, bella donna lo dicono tutti. Noi vogliamo sapere le cose vere. Le cose vere che uno pensa dentro la testa e non dice. E le vengo a dire a te in radio. E certo. Spegni il microfono stasera durante la partita del Milan, te le dico. Ma questo è l'obiettivo, farle dire invece. Ma no, no, e fai gli scherzi. Ma voi farete la parità di genere in lista o no? Ma su Facebook l'alternanza uomo-donna. Parenzo ha un sacco di ammiratori. Ho scritto su Facebook: sono in diretta alla Zanzara. Parenzo raccoglie ovazioni. Beh, devi dire ai tuoi amici di radio Padania che fanno molto più danni alcune campagne che fate voi dei rom. Cioè i rom. Cosa c'entrano i rom? No, perché i tuoi amici di Radio Padania ce l'hanno con me per via dei rom, perché io fanno difendo i rom. Ma basta, come fai a difendere i rom e la pena di morte io vorrei capire, la pena di morte per chi ammazza i bambini, sì o no? Io ti vorrei dire. L'ha detto pure un senatore del Partito Democratico. Sì, io ti vorrei dire di sì. Io però sono, per mia convinzione, contro la pena di morte. Però per chi ammazza i bambini. Bravo. Sono. Beh, io sulla castrazione chimica abbiamo presentato da poco un progetto di legge. Ma questo per quello per i pedofili, però. Per chi fa violenze cioè, contro quello che donne, ha ammazzato la bambina, ha sgozzato la bambina di 3 anni, cosa gli faresti? Io non lo lascerei marcire in galera per tutta la vita, ma però non ritengo che uno Stato debba ammazzare. No, io sono moralmente contrario alla pena di morte. Comunque ti vedo un po' abbattuto fisicamente per questa roba qua. No, fisicamente no. Ma in giro tu con un occhio chiuso. Ci vorrebbe una cannetta stasera per riprenderti. Una bella cannetta. No, mi ci vorrebbe un gol di Kakà. Zanzara, è incominciato a essere rincoglioniti, eh? Ma di dico, ma possibile che siete così vecchi anche di pensiero? Tutta nel mio spazio sotto il sale. Adesso Mussolini, cioè, noi no, vecchi. No, Mussolini, Almirante. Almirante, scusa, Almirante, no, è perché ho in testa quello che è successo alla povera Alessandra Mussolini. Beh, lei che c'è. Un dramma assoluto, no, ma indirettamente nulla. Anche a lei, e mi dispiace moltissimo. Le colpe supposte dei mariti non ricadano sulle mogli. No, ma figuriamoci se lei ha qualche responsabilità. È un dato di fatto che oggi tutti i giornali, tutti i siti titolano su una cosa: Baby Squillo, nel mirino altri VIP, IPM, dati incontrovertibili sul marito della Mussolini, che sicuramente ha telefonato a queste Baby Squillo. Lui dice di non avere fatto sesso, è andato lui prima che le notizie uscissero dai magistrati, e però secondo l'accusa i dati sarebbero incontrovertibili sul contatto tra il marito della Mussolini, che è un ex finanziere poi assunto alle Ferrovie dello Stato, e questo giro. Però hai ragione tu, la Mussolini non è a colpa, indirettamente subisce un danno gravissimo da questa cosa, anche perché non scordiamoci, soprattutto i figli della Mussolini, vabbè, ovviamente un danno. Dico io a quelli penso, perché poi... la Mussolini subisce un danno soprattutto perché lei si è sempre battuta sui bambini, sui minori, sulla tutela di queste cose, per cui figuriamoci, capisco il dramma, il grande dramma che sta passando. Abbiamo ancora qui il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini, bendato di bianco. Adesso possiamo scrivere, no, euro, scrivilo, no, bisognerebbe scriverlo sul, sulla basta benda. Euro. No, sulla benda, sulla benda. E me lo scrivo dopo. Allora, se la Lega non dovesse riuscire a raggiungere il quorum del 4%, e ovviamente che fai il gestaccio dell'ombrello, che fai, ti tocchi, no, cosa sta facendo? Ti stai toccando le palle, cosa sta grattando? No, ti stai toccando le palle, dillo. Ma è il periodo ipotetico dell'irrealtà, studiavo lì. Ma lei si dimette dalla, dalla segretaria della Lega? Beh, certo, se fallisco, cioè se non fa il 4 mi dimetto. Se scriviamolo qua però, no, ma io voglio dove? Che tu no, come no, scriviamolo su un foglio, no, vabbè, audio canta, se no, se vuoi te lo scrivo, faccia bene, no, lo spell io, Matteo Salvini. Intanto mi fai dire che abbiamo rinnovato il bonus per i genitori separati, no, divorziati, no, in Regione Lombardia, no. 400 dire? Euro al mese. E gli immigrati? Ma chi gli se ne frega? No, devono risiedere in Lombardia da almeno 5 anni. Ma non me ne frega niente. Ma come non te ne frega niente? Abbiamo aiutato 851 mamme l'ha fatto e papà Maroni, mica l'hai fatto separate, tu. Divorziate. L'ha fatto Maroni, mica l'hai fatto. Beh, l'input di chi è stato? Vabbè, perché Maroni Salvini non è divorziato, dici tu. No, cioè, vuol dire. Vabbè, insomma, però abbiamo aiutato 851 mamme e papà separati, divorziati, con dei bimbi a carico. Vabbè, allora, visto che poi si suicidano, poveretti. Io Matteo Salvini qui alla Zanzara. Salvini, beh, segretario Matteo della Lega Nord. Vabbè, non la facciamo troppo lunga. Io Matteo Salvini. Allora, se per caso. Per caso. Per caso. Per caso. Per caso. Aperta per caso. Parentesi. Sì. Beh, guarda che è una gravante. Caso assolutamente. Sì. Assolutamente. Improbabile. Improbabile. Sì. Perché secondo me, soprattutto anche con tanti voti al sud, vabbè, arriviamo al 6. Questa al è la... ma... Servi di Roma fuori. Ridono, senza... ride bene che tu, no, ridi, no, con l'euro in tasca. Tu ridi, io voglio l'euro. Tu ridi con la Merkel, la BCE, trilateral, lo spread, più trilateral, la troika, più Bilderberg. Tu arrivi a Roma, gente serissima. A proposito, la guidi, il ministro guidi Roma, della, certo, trilateral, certo. E della trilateral mi sembra molto positivo. La Lega non raggiungesse il 4%, io vengo a lavorare alla Zanzara. Bene, no, no, no, no, mi dimetto, sì, da segretario della non Lega. Non raggiungesse il 4%, mi dimetterò. Il 4%, rimetto il mio mandato. Così è comodo, però. Il mio mandato, no, nelle mani. Irrevocabilmente. Noi siamo un partito che esiste, non siamo un partito, no, di plastica. Abbiamo le sedi, abbiamo i militanti, abbiamo i dirigenti. Nelle mani. Non è che vado in televisione. Mandato, rimetto, dimissioni irrevocabili. Nelle mani. Del Consiglio federale. No, dei militanti. Cioè mi dimetto, virgola, cioè spieghiamo come le lettere di Totò, cioè, no? Cioè mi dimetto, due, cioè, punti, mi dimetto, punto e punto e virgola. Beh, però questo è importante. Tu sai quanti militanti sono iscritti alla Lega quest'anno? Ma militanti, non quelli con la testa, quelli, sì, 22.000. Quelli che si fanno la mazzo, i gazebo, aprono le sezioni, e vanno sul Po, filmato, l'acqua, filmato, l'acqua del Po la raccolgono ancora o no? L'acqua del Po, l'acqua del Dio Po, non mi ci faccia pensare all'acqua del Dio Po, a quella cosa lì, lei non mi ci deve di far acqua, pensare. Io parlo dell'acqua del fiume Secchia, oggi si stanno facendo, l'acqua, si stanno baloccando con la legge elettorale, il quando contratto, ci sono gli alluvionati modenesi che ancora non hanno visto un quattrino. Vabbè. Fate, una non fa audience, magari, questa è una però provate sostanza... a chiedere a uno del PD, ne ospiterete uno del PD prima o poi, beh, certo, perché gli alluvionati dell'Emilia e del Veneto ancora devono pagare le però tasse? La cosa allucinante, la spieghi bene ai nostri microfoni e poi se ne va. Qual è? è questo, cioè voi chiedete il voto per distruggere l'Europa. Questa è la sostanza. No, lei questo prima ha detto. No, vogliamo distruggere l'Europa, per questo chiede. No, un'altra Europa. Se tu fai Europa. Il bravo bambino però, ed entri bambino, come fanno molti radioascoltatori stasera. No. Sul sito bastaeuro.org. Ma perché bastaeuro.org? Noi scriviamo che un'altra Europa è possibile. Allora, questo senza qua euro, va bene, abbiamo capito. Controllando questo, la moneta, benissimo, l'agricoltura. Va bene, questo è il contratto come da Vespa. Contratto con la Zanzara firmato da Matteo Salvini. Quanto se vale? Il 25 di maggio, cioè tra circa due mesi, non raggiunge il 4%, si dimette la segretaria della Lega Nord. Addirittura ascoltatori, dice, mi raccomando. Vabbè, quello è. TG3. Siamo gli unici anti-euro. TG3 no, c'è Fratelli d'Italia, TG3. Ah, beh. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Ok, della Camera la legge elettorale, l'Italicum regge su soglie d'ingresso e premio di maggioranza, no alle preferenze per 35 voti. Bocciata anche la doppia preferenza di genere nelle liste, le donne PD ieri all'Opera, 60 vigliacchi, Renzi, chi non vota la riforma lo spieghi al Paese. Il governo prepara il taglio di 10 miliardi alle tasse che sarà presentato domani, Palazzo Chigi le coperture ci sono, Confindustria ridurre l'IRAP. Gli effetti del cuneo fiscale, secondo l'Istat, tasse e contributi si mangiano mezza busta paga, la pressione fiscale in Europa scende, in Italia sale di 3 punti. Ha accoltellato e dato fuoco alla giovane fidanzata Fabiana quando era ancora viva, condannato a 22 anni, l'assassino anche lui minorenne. Con un voto unilaterale del Parlamento la Crimea proclama l'indipendenza dell'Ucraina, Mosca la volontà popolare va rispettata. Sotto sequestro gli impianti a carbone della Tirreno Power di Vado Ligure, la procura e i fumi avrebbero causato oltre 400 morti in pochi anni. Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada. E cadono le ceneri della città. Siamo qui, siamo sopravvissuti al Salvini bendato, al Salvini bianco bendato, 800 24 00 24. E subito inauguriamo la tornata degli ascoltatori con Ignazio da Napoli, così a caso. Signor Ignazio da Napoli, io sono Luciferino, Ignazio da Napoli. Ignazio? Sì, sì, dica. Ciao Cruciani, saluti a te e a Parenzo. Volevo dire innanzitutto una cosa, cioè noi seguiamo con attenzione la Zanzara. Devo dire che avete una straordinaria abilità, o meglio, la capacità di proporre una beffarda ironia rivolta ai rappresentanti istituzionali che vengono lì da voi. Come vabbè, in questo però caso, andiamo oltre, a noi è quello che sì, ci però voglio dire quel una che cosa. Cioè, è mai possibile che diciamo avete fatto per esempio una puntata sola della Belva? Sarebbe il caso forse che voi la dovreste riproporre, vabbè, perché è stata straordinaria. È una roba vecchia, passata, morta e sepolta. Vabbè, d'accordo, per lei è straordinaria, per diciamo per, vabbè, ma al di là per voi di anche, per me soprattutto. Sì, ma però è finita lì. Ho capito, però volevo dire una cosa riguardo a Matteo Salvini, no? Il segretario della Lega, che sta proponendo questa questione della prostituzione da togliere dalle strade e quindi creare le case chiuse. Ottimo. O riaprirle. Ottimo. Voglio dire, io sono il anche secondo firmatario, cofirmatario di questa roba. Allora... Sì, certo, però voglio dire una cosa, ma quando la Lega è stata al governo con Berlusconi per 15 anni, non l'ha mai proposto, oppure se la proposta è stata, diciamo così, fatta. Vabbè, ma questo non c'entra. Se uno, scusi, Ignazio, se uno non l'ha proposto fino adesso e poi propone una cosa buona, non è che gli posso dire no, fai male, siccome non l'hai proposto prima, allora non lo devi proporre. Scusa. Grazie. Sandra da Cuneo. Buonasera, signora Sandra. Buonasera, ragazzi. Senti, dica, voleva fare una festa per questa donna così bella, che è la Santanchè, che ha detto in la vostra trasmissione che bisogna non darsi agli uomini. Peccato, ha detto che non bisogna darla in giro. Peccato che la Mussolini gli è andata male. Vorrei che faccia anche lei un contratto per tutte le donne che non la danno, come lei che mangia il pisellini, tutte queste cazzate di donna. Cioè, Sandra, non ho capito niente io. Si spieghi meglio su questa cosa qua. Mi spiego meglio. Che c'entra la Mussolini adesso? La Mussolini, se vedi che non se l'ha data, al suo marito. Ma che ne sa lei? Lei ha sentito la notizia del marito coinvolto in questa vicenda del baby squillo, su cui si può fare tutta l'ironia possibile e immaginabile. Due, sai. Ma ha fatto un 2x2, ha fatto un 2x2, ma si è impicciata degli affari di letto della signora Mussolini in una vicenda che ha del drammatico perché coinvolge delle ragazze, e ci sono accuse ancora tutte da dimostrare nei confronti del marito della Mussolini. La signora Mussolini non c'entra nulla, ricordiamoci sempre, non c'entra nulla, anzi riceve un danno da questa cosa qui. E io devo dire, oggi sono anche un po' vicino per quello che sta passando ad Alessandra Mussolini, siamo anche molto lontani dal punto di vista delle idee, eccetera, ma sono vicino ad una donna che è coinvolta in questa roba terribile per colpa, forse, del marito. Fra poco il dottor Parenzo, che si è documentato oggi, vi spiegherà in che razza di palazzo siamo, in che razza di comunità siamo capitati, quali sono i costi di questa roba qui che ci ospita, appunto, questo è il punto. Dei costi esorbitanti. Prima però, sì, le ultime novità dal Movimento 5 Stelle, sì, perché come sai... Chi hanno cacciato a calcio del sedere? Stanno per cacciare un senatore campano che si chiama, sì, Bartolomeo Pepe. Adesso Pepe è venuto ospite, non è lui una volta. Ecco, io proprio di questo ti volevo parlare, caro Pepe. Sì, eravamo all'inizio della legislatura, sì, appena eletto. Vogliamo ricordare che il signor Pepe verrebbe cacciato perché in un meet-up lo hanno sfiduciato, ma erano una ventina, una trentina, mentre altri attivisti hanno firmato a suo favore... Pare che ci siano dei contrasti. Già io quando sento la parola meet up, già mi rode in modo, come dicono a Roma, guarda. Cioè, cosa sono i meet up secondo te? Ma dai, meet up, ma come direbbe il nostro sindaco di Salerno, mandato da affanco. Ma dai, ma meet up! I partiti ci vogliono! Partiti con le sedi, con la gente che si riunisce, che fuma! I soldi pubblici. Certo, i partiti, cioè, i corpi intermedi, partiti, non un sito internet, non uno con dei capelli, un comico che candidiamo questo, la rete, partiti con delle sedi anche costose dove i cittadini possono andare, bussare, vedere chi c'è, basta con questa cazza, i meetup tutto virtuale, e poi si trovano 20 stronzi, 20 che nessuno sa neanche chi sono, dice, no, noi siamo iscritti in rete e ti cacciamo, noi siamo iscritti in rete, ma dai, la democrazia è una roba seria, la vabbè, politica. Vogliamo ricordare, dopo questa tirata di Parenzo che si attirerà, come evidente, le simpatie dei signori del Movimento 5 Stelle, vogliamo ricordare la performance che proprio qui alla Zanzara fece, sì, il senatore Bartolomeo Pepe, sì. Allora, era stato appena eletto al Senato signor Bartolomeo Pepe, che sta per essere cacciato forse dal Movimento 5 Stelle. Cosa disse all'epoca Pepe? Innanzitutto non sapeva dove era il Senato. Te lo ricordi? Come no? Dice, non c'è grosso Google di pensare. No, su Tom. Sì. Credo, Pepe, numero uno. Ma lo saprai dove andare, no? Si chiama, è un famoso palazzo di... Ma prenderò un sassì, andiamo, dai, non è un problema. Non è un problema del nome. Ma sì, vai, farla, chi se ne frega. Ma dai, lo troviamo, dai. Ma certo che lo troviamo. Sai sul taxi che porti lì al Senato? Andiamo su Google e praticamente lo troviamo, dai. Hai ragione, era Google, l'ha detto. Andiamo su Google e troviamo dov'è il Senato. Beh, siamo al top. Il nome, non sapeva nemmeno il nome del Senato, cioè Palazzo Madama. Pepe, poi avrà imparato. Sì, ricordo, cioè. Fisicamente, dove ha sede il Senato? Dimmi. Come si chiama il Senato? Dove ha sede? Dov'è? Come si chiama? Ma chi se ne frega? Fammi tanto di arrivare, ti faccio vedere io. Lo troveremo, non ti preoccupare. All'epoca non sapeva nemmeno il nome del Senato, Palazzo Madama. Poi ti ricordi che disse anche un accordo con Bersani, con quell'assassino. Ma quando va l'assassino Bersani? Fosse per lei, lo farebbe un accordo con Bersani, sì o no? No. Io con gli assassini personalmente non faccio nessun tipo d'accordo. Come assassino? Perché riconsidero praticamente gli autori della strage che stanno... La strage della Campania, della terra dei fuochi, no? dei rifiuti tossici, questo diceva all'epoca Pepe. Però c'è una novità nella vicenda, perché Serenella Fucsia, io so che questi nomi ti fanno orrore, Serenella Fucsia, sai chi è? Anche una senatrice del 5 Stelle, Serenella Fucsia. Perché... Anche questa stupida cittadino Pepe. Sei un senatore! Bel senatore! Onorevole! Non è brutto! Cittadino! Cittadino! Siamo cittadini della rete! Ma vaffanculo, dai, la rete! fucsia, Serenella fucsia. Senti, senti questa cosa, esce dalla riunione, senti, senti fucsia. Fanculo, veramente non c'ero andato proprio. Fanculo. Ah, ma che rientro, che rientro. Fanculo. Deve far capire tutto lei, tutto lei, tutto lei. Tutto che deve capire la gente, non che il problema è 5 Stelle, che c'è la gente non capisce un cazzo e non vuole capire. Questo è il problema 5 Stelle. L'unico problema. Qual è il problema? Che c'è della gente che non capisce un cazzo e pensa di capire. Questo è il problema 5 Stelle. Che bel clima all'interno del Senato, che bel clima! Sono inconciliabile con 5 Stelle se non ho diritto di parola, Serenella. Io non ho paura di dire quello che penso, mai con nessuno. E il Movimento 5 Stelle questo mi deve dare l'opportunità di farlo e di dirlo. Altrimenti c'è qualcosa per me nel Movimento 5 Stelle che diventa inconciliabile. Questo io dico. E penso che questo diritto debba essere dato a tutti. Bene, bene, Umberto da Verona, 800 24 00 24. Tra poco un altro ospite da tanto tempo assente alla Zanzara. Ne sentirete delle belle sul Cavaliere, eh? Umberto, Verona. Sì, salve. Umberto? Cristiani. Ciao, dimmi, sì, sono dimmi, qui, Umberto. Buonasera. Due domande al volo. Senta, ma lei è veramente convinto che una vecchia scarpona come la Mussolini è rimasta sorpresa per quello che sembra che abbia fatto il marito? Cioè, veramente lei si sorprende sentendo che questa non lo so, signora... Non mi fa... Scusi, io per carità sono una persona che è abituata a parlare chiaro e parlo anche di cose che riguardano la sfera privata, non ho problemi quando riguardano, cioè questa trasmissione è molto aperta da questo punto di vista, però francamente se la Mussolini sapeva delle presunte responsabilità del marito, presunte responsabilità del marito nella vicenda delle baby squillo, io francamente non lo so, se lei è sicuro invece che ci siano queste responsabilità, faccia le sue considerazioni. No, è lei che ha dato per scontato il fatto che ci sarebbe sorpresa. Beh, certamente signora. sta vivendo un dramma. Non è che se sapeva che il marito frequentava le baby squillo, sempre se le frequenta le baby squillo, non credo che, cioè, era fino all'altro giorno in televisione, insomma, dissimulava bene. Poi può darsi pure che lo sapeva, io non lo so, sempre se è vero. Questa signora Umberto, è da 30 anni che cavalca la cavallina, capisce? Cioè, ma che noi vuol dire? stiamo vivendo un autentico dramma e non sappiamo questo dramma straordinario. Vabbè, che ogni ho capito, ma ognuno ha i suoi drammi. Sangue. Sarà un dramma, scusi un attimo. Lei avrà il suo dramma. Lei che mestiere fa, scusi? Io? Lasci stare, cosa faccio io? No, cosa fa lei di mestiere? Siccome gli altri... No, lasci perdere, diciamo che sono... Cosa fa di mestiere lei? Allora faccio il pensionato. Fa il pensionato, benissimo, d'accordo. E quanto ha di pensione al mese? Come dice? Che tipo di pensione prende? Quanto ma dove si trova, pensione? Umberto, scusi, che sento un quanto rumore prendo? Pazzesco, dove si trova? Dove si trova? Sta al circolo del tennis, dov'è? Sono in una palestra. Bella la vita, alle 7:40 in palestra. Ma quanti anni in pensione? Sono in una palestra ad aspettare che esca mia figlia. Sto parlando con lei prima che lei arrivi, perché siccome mia figlia ha 13 anni e io la Zanzara non ascolto più perché lei ha un linguaggio piuttosto volgare, allora benissimo, sto approfittando del fatto che mia figlia non c'è ancora, non appena arriva. Ma sua figlia ha 13 anni, ma lei è già in pensione. Sua figlia ha 13 anni, non si preoccupi, capisce tutto quello che viene fuori dalla Zanzara e non si scandalizzerebbe affatto, perché non è così com'è. La cosa curiosa, amico mio, è che lei ha una figlia di 13 anni, e questo va benissimo, ma è già in pensione. Scusi, ma lei è un baby pensionato? Come dice? Lei ha quanti anni è andato in pensione? Io? A quanti anni è andato in pensione? Vabbè, adesso non sente. Io sono andato in pensione a 59 anni. Oh, 59 anni, come mai? Ma come mai? Perché guardi, io ho fatto 35 anni di lavoro, ho fatto l'università, le cose. Ho riscattato 4 anni di laurea. Comodo. Ho riscattato un anno di servizio militare come ufficiale e niente, ho potuto con 40 anni andare in pensione. Comodo, dice lei. Guardi che io ho cominciato a 18 anni, sa? E poi io... Va bene, Umberto, ma io non ho capito qual è il punto del suo intervento, però. Di cosa vuole parlare? No, no, allora, guardi, io volevo parlare innanzitutto... No, io ho colto il discorso della Mussolini che è arrivato dopo. Ma ora sta per arrivare d'accordo. Mia figlia. Le volevo chiedere del vibratore. Lei che cosa l'ha comprato a fare? Avevo questa curiosità. Ma secondo lei perché cosa l'ho comprato? Scusi. Provi a indovinare, no, perché no, cosa no, l'ho comprato? Per uso personale diretto oppure... Sì, anche per uso... Adesso, lei è soddisfatto se le do questa risposta? Per uso personale, sì, anche per uso personale. Così è soddisfatto, anche per uso personale. No, io voglio la verità. È lei che ha fatto questa affermazione. Voglio solo la verità. Niente di più, niente di meno. Ma quale verità? Ma che c'entra la verità? Però anche lei è curioso. Dice, no, volgare, poi dopo chiede. Ma sì, volgare, poi chiede. Poi chiede. È incredibile anche lei. Su. Paolo da Verona, Paolo. Ciao, Paolo. Volevo parlare, dire qualcosa anch'io a proposito della Mussolini. Siccome voi siete due bravi e disincantati e vi ascolto spesso, sì. Però questa roba qui, scusa, se il marito della Mussolini è un depravato testa di cazzo, ma perché dovete sputtanare la Mussolini? Cosa c'entra lei? E appunto, no, ma infatti lei non c'entra niente. Dopodiché, quest'uomo qua finisce su quest'uomo, questa famiglia finisce... Scusami, quest'uomo, questa famiglia finisce sulle prime pagine dei giornali, dei siti, non perché se fosse uno qualunque, sì, probabilmente ci sarebbero dei trafiletti. Come mai gli altri nomi delle persone coinvolte dell'inchiesta ancora non ci sono? Perché lei, questo qua è il marito della Mussolini, punto. Ma non ho capito che cosa ha da rimproverarci. Quello che voglio dire, qui entri in una sfera, secondo me, che non c'entra niente con la pubblicità. Cioè, tutti quanti devono sapere che il marito della Mussolini è un depravato. E saranno cazzi suoi se è un depravato. Ma la Mussolini, che è la moglie del depravato, cosa c'entra la Mussolini? Perché bisogna sputtanare anche la Mussolini. Ma che ho capito, ragazzi, però non facciamo gli ingenui. È evidente che se il marito della signora Mussolini viene coinvolto in una vicenda che riguarda le baby squillo, perché avrebbe telefonato a queste signorine, avrebbe telefonato a queste minori, è coinvolto, i PM dicono che lui è un cliente, ci sono dati incontrovertibili, così esce fuori oggi dai siti, poi ovviamente ci sarà... Sarà tutto da verificare. E lei può capire, anche per le battaglie fatte dalla signora Mussolini nel passato sui minori, eccetera, eccetera, che la cosa ha una certa rilevanza. Deve passare questo punto, però. Dopodiché, lei non ha nessuna responsabilità, su questo mi pare evidente, no? Almeno vedi cosa hai generato adesso. Sarà casuale che quello che ha parlato. A parte che la parola depravato l'ha detta lei. La parola depravato l'ha detta lei, dando per scontato. Nel caso che fosse così, no, visto quello dite anche voi, per carità. Gli inquirenti dicono che ci sono degli elementi nuovi. Non è casuale, se vedi poi anche quello che è intervenuto prima di me, che ha detto della Mussolini che è questa, quella, ma che cosa sta quello lì? Ma il messaggio che arriva al pubblico poi è che la Mussolini è una depravata anche lei, perché il messaggio che passa è che lei sapeva... Non arriva questo messaggio, l'unico messaggio che c'è è che la Mussolini viene coinvolta in una cosa e non ci sono certezze su questa cosa qua, tranne il fatto che i PM dicono che ci sono dei dati incontrovertibili. Musica, maestro. Musica. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, è la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, è la zanzara dispettosa, fa zazza, zazza, zazza, zazza, zazza. Siamo ancora a casa. Oh, è con noi. Lo so, siamo ancora qua, senatore Dell'Utri, mi dispiace dirglielo, ma siamo ancora qui alla Zanzara, nonostante tutto quello che abbiamo combinato in questi mesi, siamo ancora vivi e vegeti, sopravviviamo. Qui c'è l'onorevole Ronzulli che vuole fare un selfie col sottoscritto. Che si fa? Il selfie in diretta. Eccolo qua, ragazzi. Selfie in diretta col sottoscritto che ha una ciuffo terribile. Ecco qua. Selfie in diretta non è mai successo. Ma tu non vieni, come no? L'hai fatto anche con la signora D'Urso, ho visto il selfie. Sì, ma in diretta. Però in diretta radiofonica dove non si vede, dai. In diretta non l'abbiamo mai fatto. Selfie che non si vede. Si chiama radio questa cosa. Si chiama radio, cioè si deve vedere. Avvicinati un attimo. Si deve twittare. Bow. C'è Dudu, cazzo, via. Dov'è Dudu? Non c'è. Eccola. Lei non ha cani, signora Ronzulli? Non ha cani come il suo come dottore? Quante ne fa? Poi scegliamo quella più carina. Eccolo qua. Bene, siamo qui. Licia Ronzulli, Forza Italia, europarlamentare, eletta con quante preferenze qui a Strasburgo? Me lo dica. 40.000 euro. Bene, allora adesso lei ci dice qua. Lei ci scrive qua. Se può gentilmente spenga telefoni, spenga telefoni e tutto, li dia al suo assistente che è qui, bravissimo. Che è pagato in nero l'assistente? No, va a puttane in Germania, come molti assistenti dicono che vanno. No, il mio sta sempre con me. Non va? Non va? Molti dicono di sì, che diversi assistenti, molti assistenti che lavorano qui a Strasburgo, poi a un certo punto vanno alla deviazione e vanno in Germania. Vabbè, sarà a cavolo di loro cosa faranno dopo l'ora di lavoro, non mi interessa. Allora, Allora, mi scrive per favore quanti voti prenderà. No, non scrivo niente perché ho già capito Cruciani cosa vuole. No, porta sfiga, lo posso Salvini dire. Qui, il segretario della Lega Nord. Il segretario della Lega, no, ha scritto una cosa clamorosa. Sentiamo. No, lascia perdere. Ha scritto una cosa clamorosa. Ha scritto, se la Lega non dovesse prendere il 4%, io mi dimetto da segretario della Lega Nord. Come Vespa abbiamo fatto qui, eh. Contatto con la Zanzara. Contatto allora, con la Zanzara. Onorevole Ronzulli, quante preferenze ha preso alla passata? 40.000. 40.000. No, 40.000 precise non saranno. 40.000, adesso non lo ricordo. Non ti ricordi quante preferenze avevi? Ma di chi è questo telefono? Dai. Non è mio. Vabbè, allora? Quanti voti no, prendi? No, porta sfiga sta roba. Ma non portami, non lo diciamo a nessuno. Non lo diciamo, ma facciamo coperto. Non siamo in onda. No, coperto. Vabbè, non è coraggio. È un anno che non tornavo, di più, 2 anni. E che fine aveva fatto? Non so, io ho snobbato per un po'. Ci ha snobbato, sì, siamo litigato io e lei. Vabbè, abbiamo litigato io e lei. Ah, voi due avete litigato. Litigato e parliamone un po', io non so. È un... Ah, è nuova. Un'altra persona che lo dice, Cruciani, ma come mai? È strano. Perché io che le ha fatto? Gli avevo detto, ma adesso non me lo ricordo neanche più, si immagina. No, anch'io mi sono dimenticato. Anch'io ho dimenticato. Adesso non lo ricordo. Lo ha perdonato. Ma no, ma io poi sono una che alla fine perdona sempre tutti. Sono dotata di carità cristiana. Non mi lasciate parlare, fatemi stare zitto. Fatemi stare zitto. Sembra Raimondo e viene... Sì, ho detto... Sandra, sì. Raimondo, non me lo ricordo, pensa, non mi ricordo neanche più per litigato. Possiamo tornare a parlare di cose importanti e politiche, soprattutto no, perché siamo a Strasburgo. Lei si sente la giaguara, la signora di... Pascale. Cose importanti da Strasburgo, no? Fondamentale, siamo venuti fino a qua, va tanti chilometri. Allora facciamo una postazione fuori da Arcole, se volete parlare della signora Pascale. La signora Pascale. Secondo lei combolerà giuste nozze con il dottore, con quello che lei chiama il dottore? Non lo ma so. Che è un medico? Perché non lo so chiamare. Perché, perché lui, lei lo chiama il dottore. Ah, non il cavaliere? No, no, il dottore. Ma che è un medico? Un urologo? Che è? Ma perché il dottore? Il dottore, perché il dottore, molti lo chiamano dottore. Questo, molte persone che lavoravano con lui lo ma chiamano dai. Dottore. Sì. No, lo so perfettamente. Lo sai, lo sai. Vabbè, ma cosa c'è di strano? Ma è un medico, il dottore? Ma pare, insomma, di qualcosa di più serio, per favore. Dai. No, infatti, torniamo alle cose importanti. Dai, Licia, Strasburgo. Oh, guarda che c'è un bellissimo giornale qua con tutte queste... No, dai, Licia, allora, diciamo qualcosa su Pascale di Filippo e poi andiamo... Ma non so niente, scusa, cosa devo dire? Una roba che non so. Siamo in Europa, siamo venuti a... No, secondo te, si sposano o no? Non te lo so dire, mi stai chiedendo una roba. Ma dai, la tua sensazione, sarai una di quelle che riesce ad avvicinarsi senza passare per ma la Pascale? Ma cosa vuol no? dire? Cioè, per esempio, è vero che la Pasquale mette molti paletti? Ma non è vero. Cioè, ma tu per esempio, Berlusconi, devi fare un filtro, devi passare non per la Rossi. Non esistono filtri. Tu lo chiami, direttamente lo chiami direttamente. Ma no, non, lui non ha un cellulare. Come ha un cellulare? Non ha un cellulare. C'è l'uomo che ha inventato la televisione e non ha un cellulare. No. Dai tempi, da quando sono successe quelle cose. Molto... da quando ci sono state tutte quelle intercettazioni fatte in modo. Vabbè, lasciamo perdere. Da quando è, non ha più un cellulare, cioè no. Non risponde a un cellulare. No, non mi risulta questa cosa qua. E invece, cioè non ha un, e se uno lo deve, cioè c'è sempre... Vabbè, ci sono 27.000 linee telefoniche ad Arcore. Ma a quando Roma, tu lo devi chiamare, come fai? Si chiama la segreteria. Tu Marinella. Chiami la segreteria? Sì. O la Rossi? No. Chiamo la... Anche la Rossi ogni ma tanto. Sì, Maria Rosaria Rossi. Ma io chiamo la segreteria e dico avrei bisogno di parlare con... Ecco, qual è la procedura? Proviamo in diretta a vedere. Lascio immaginare se mi presto. Beh, questo sarebbe straordinario. Però non voglio alzare troppo la audience, quindi non lo farò mai. Verificare in diretta. Non voglio fare questo favore a Cruciani, sono tornata già tante. Solo la procedura. No, capito? Ma possiamo... Lo hai anche... Lo sta accarezzando. Allora, per gli ascoltatori in macchina, allora... Una carezza, una carezza gentile. Sì, come si dà anche a quei poveri. Ma smetti, diciamo. Vabbè, allora io voglio sapere però una cosa. Allora, non ci sono filtri. Sono cioè, anche tu ammalata. non devi superare un filtro della Rossi. Ma se è malata, chiami il dottore, appunto, no? È malata, chiami il dottore, come ha detto. No, però scusa, Alice, è vero che qualcuno della signora Pascale ha detto che se una donna vuole venire, non parlava ovviamente delle deputate, eccetera, eccetera. Se una donna vuole passare, no, vuole avvicinare Berlusconi, deve passare il cancello Dudù. Il cancello Dudù e poi anche lei soprattutto, no? Come ostacoli. Vabbè, invece ci invece altro, Licia Ronzulli che deve fare? Giustamente una donna che segna il proprio, come dice? Guarda, per questo tweet sono andata, è venuto fuori un delirio. Lo spieghiamo. Ogni donna che deve fare deve segnare il territorio. E dunque fa bene la Pascale a segnare il territorio con Berlusconi. Beh, da donna da napoletana, vera. Ma la idea è napoletana cosa da persona da donna che ama il proprio uomo deve stare? Ma non avere paura di dirlo, ma deve segnare il territorio. Ma lo deve fare ogni donna. Vabbè, però la Pascale ha maggior ragione la Pascale. Fosse, diciamo, una persona un po' diversa, non ci sarebbe bisogno, diciamo, di braccarlo costantemente. No. Tutto uguale. Non gli piacciono più le donne a Berlusconi, gli piace solo una. Ma che c'entra? Io non sto parlando di Berlusconi adesso, sto dicendo che in generale... Compito di una donna, ma anche di un uomo, anche al contrario. Non è che l'uomo se ne può. No, ma figuriamoci. Certo. Allora, io voglio capire una cosa. Tu sei entrata nelle grazie di Dudu o no? No, questo è interessante. Ho fatto anche un selfie con Dudu. Vabbè, ma sei entrata nelle sue grazie o no? Sì, io non sono, cioè non ho molta. Sei assidua di casa di. Sì, ma io sto con i cani, cioè con i cani, con gli animali. Ho un po' paura io di solito dei cani. Adesso anche di Dudu. No, però sì, è carino, è coccolone, soffice, ha un pelo morbidissimo. Sì? Morbidissimo. Molto morbido? Molto morbido, poi sempre pulito, sempre. Vabbè, te credo, è un miliardario. È figlio di un miliardario praticamente. E quindi sì. Sempre pulito, molto morbido. Com'è pure? Gay oppure macio, come dice lei? Ma l'ha detto, signorini. Macio l'ha detto la Biancofiore, ci sarà una via di mezzo, ci sarà. Signorini dice che è gay, la Biancofiore dice che è macio. Ma io francamente non so valutare la sessualità secondo di te. Un cane. No, ho visto che se secondo c'è la Biancofiore porta la sua cagnolina. Sono molto intimi. Molto intimi. Sì. Trombano. Si Tromba, può dire? Non lo so. Sotto il lettore. Ma non lo so, guardare. Però sono intimi, sono intimi col cane della Biancofiore. Sì, confermi questa sì, cosa? Questo è un indizio in più. Sì, li ho visti, sono intimi. Sì. Ma tu lo prenderesti un cane? No, mai. Io non ho il tempo. Non hai il tempo mi per piacerebbe, i cani. Piacerebbe molto anche a Vittoria, devo dire. La mia perché dovete sapere che lei è la deputata che porta la bambina in braccio al Parlamento europeo. Lei adora gli animali. Ogni volta che vede un cagnolino per strada. Però siamo Vittoria, che è diventata molto famosa. Io non ho il tempo di occuparmi anche di un cane. Però io sono molto abito in un appartamento, bisogna portarlo fuori, scendere al mattino presto. Eurodeputato Ronzulli, lei sa che io sono molto cattivo. Posso essere molto cattivo. No, questa storia delle foto con la bambina, diciamolo ancora. Chiaramente, portano voti oppure no queste foto? Non lo so, non mi interessa, non l'ho fatto con quello scopo e non mi interessa se portano voti o no. Guarda, francamente non lo so. Fuori dall'Italia, in realtà questa roba ha colpito male. Tantissimo. In sì. Italia non mi ma in Italia, no, in Italia magari ci sono state alcune persone che hanno un po' polemizzato. Però pensando i manifesti magari per la campagna elettorale li facciamo così. No, assolutamente. Dei manifesti. No. Manifesti sarebbe sì. Top, ma non lo si fa. Non hai coraggio. No, non lo voglio fare, non è questione di coraggio. Ma non è che se una persona. Ti spiego una cosa, Cruciani. Dimmi. Vieni qua. Ah, si danno del tu intanto. Anche. No, invece. Vabbè, la vicinanza al giornalismo con la politica. Vieni qua, Cruciani, 2 secondi pubblicità. Prima della pubblicità. No, pubblicità, che vuoi dire? Vuoi dare un non bacio? È che se una cosa uno non vuoi la un bacio fa. La guancia, un bacio sulla guancia. Facciamo sentire un bacio non la è che se una cosa. Facciamo non pace definitivamente in diretta. Facciamo pace definitivamente. Non è che se una cosa non la fa, non ha coraggio. Ci mancherebbe pace definitiva. Dove lo vuoi? Però poi ti devi far baciare anche da Vattimo e anche da tutti gli altri deputati del Parlamento. Non me lo vuole dare. Che arriva la pubblicità. Io un bacio al suo non me lo vuole dare pubblicità. Zanzara! Il Signore vi benedica tutti, vi spiri sempre il bene. Bisogno effettivamente di essere benedetti, abbiamo bisogno di essere toccati dalla mano del Signore, perché siamo esagerando, diciamo la verità, stiamo esagerando. 800 24 00 24. Beh, io spero che l'eurodeputato Ronzulli, eletta con le preferenze, anche con qualche aiutino di Berlusconi, diciamo la verità, qualche anno fa, perché insomma questo è evidente, dica di essere contraria a quello che è stato bocciato ieri alla Camera, profondamente contraria alle quote rosa. Perché se non ti lascio immaginare, ho fatto oggi in Parlamento Europeo, abbiamo votato proprio oggi, guarda, guarda perché votate pure, votate pure sì, ogni tanto è tempo perso pure. Ma guarda te bravo, aiutiamo lasciamo stare, chi aiutiamo? Per chi stai facendo campagna elettorale anti-euro? Io. Sentiamo, lascia perdere anti-Europa. Io no. E allora pianta di dire che ogni tanto votiamo. No, le quote rosa. Oggi abbiamo votato una relazione sulla parità di genere, fatalità. Una relazione. Cioè, a favore della parità. Sì. A favore. Sì, ho votato proprio. Orgogliosamente a favore. Vabbè, delle quote rosa. Questo no, perché non sei nel Parlamento italiano, qui al Parlamento oggi, europeo. Oggi. No, tu sei a favore delle quote rosa perché vuoi la poltrona assicurata. No, questa no, è la realtà. Io faccio un altro discorso, francamente non faccio un discorso di poltrona colorata di rosa, no. Io ne faccio un altro, è ovvio che il merito arriva prima, però purtroppo in un paese dove antropologicamente, ancestralmente la donna ha sempre pochissimo spazio. Io sono d'accordo con lei su questo. Allora c'è bisogno di imparare dall'Europa. Sono d'accordo con te, mi preoccuperei. Aspetta anch'io. Sì, sono molto c'è bisogno d'accordo di uno shock positivo, utilizzando uno strumento inizialmente obbligatorio, sperando che possa in futuro diventare e facoltativo come in Svezia, perché mi fa piacere che lei dica questo. Perché fino a poco fa la vostra classe dirigente era stata scelta semplicemente con il criterio della dunque chi hanno vinto i maschi di Forza Italia, ha vinto il maschilismo di Forza Italia, dillo chiaramente. Ma dove, allora. Ieri? Beh, certo, sì, e dove, quando? Ma no, io credo che abbia vinto ancora una volta una cultura un po' troppo retrogata. Di chi è? Gaspari un retrogato? Ma no, dico, ma guarda. Facciamo nomi e cognomi. Io francamente. Berdini è un retrogato, Berlusconi. No, ma smette di farmi dire, non uscirà mezzo titolo. Però, questa. Quegli uomini se mi chiami qua per fare i titoli delle agenzie, non escono i titoli del però, allora, fammi dire. Quegli uomini di Forza Italia che hanno votato contro le quote rosa. Che fatica, che fatica. Sempre lottare dai quando vengo piace, qua. Dai che le sempre piace lottare. Rotolarsi nel fango con signor Cruciani. Dai che le piace rotolarsi nel fango con signor Cruciani. No, rotolarsi perché lì. Sono un po' schizzinoso e il fango mi dà fastidio. Sì. Vabbè, comunque dicevo, quegli uomini di Forza Italia che hanno affossato le quote rosa sono degli infami? Quegli dai, uomini addirittura, addirittura. Dei maledetti? Maschilisti, sono maschilisti. Retrogradi. Sì. Retrogradi. Sì. Non so se c'è una paura di qualche, non so veramente di che tipo, però. Ma se siete brave, che paura avete? Se siete brave, che paura avete di affrontare il fatto che potete essere candidate? Perché? Perché gli uomini comandano i partiti? Perché cosa? E non vi candidano? Beh, voi dovete ringraziare l'uomo cosa, che vi ha scusate, candidato. La maggioranza però della popolazione in Italia, sapete, è femminile, ok? Sì. Vabbè, allora, possiamo c'è avere una rappresentazione plastica, una fotografia? No, non perché solo allora, nella perché vita, non nella gay, vita allora sociale, perché non nella gay vita anche politica, anche delle donne. 10% di gay in Parlamento? Allora, mettiamo 5% di metalmeccanici, 3% di idraulici, non so. Io dico solo che nella mia regione, la Lombardia, per scorrere nella lista del Senato per trovare la prima donna devi andare al posto 22, caro Cruciani. Ma questo lo dica al suo allora presidente del consiglio, lo dica al dottore, gli ha detto qualche volta in faccia, certo, no? Certo che gliel'ho detto. Che ha detto il dottore, le donne le ha candidate. Io dico, appunto, non mi faccia parlare, appunto, anche lei, il cavaliere, le donne le ha candidate. Berlusconi è stato, anzi, le ha scelte, scusate, Berlusconi, oh, ragazzi, però fatemi parlare perché io ho già poca voce, sono influenzata, prendo l'antibiotico, così fatica. Dunque è stato il primo a sdoganare questa e portando in Parlamento tantissime donne preparate e non solo in Parlamento, anche vogliamo parlare del governo Berlusconi dove c'era la Carfagna ministro delle pari opportunità, la Gelmini ministro dell'istruzione, la Prestigiacomo. Ma voi vi ha candidato Berlusconi e i voti ve li ha fatti avere Berlusconi, adesso volete le liste bloccate a favore vostro, volete la parità di genere, volete la parità di genere. Non vogliamo le liste bloccate, perché devi fare. Ragazzi, se vi racconto cosa è successo. No, Cruciani, tu le fai proprio tutte per non farmi parlare. No, aspetta, cioè, è successa una cosa. Tu le pazzesca fai tutte per l'eurodeputata più incerta della storia dell'umanità, che non sa se candidarsi, se non candidarsi, se restare al Parlamento europeo. Ha fatto saltare tutto. Aspetta, se tornare a fare la cantante, se tornare a fare quella straordinaria donna d'arte che era e che è ancora, ha appoggiato il suo cappottino su una specie di piccolo, no? Che cos'è? L'interruttore di una sede che paghiamo 500 milioni di euro. Il costo totale della sede del palazzo è 500 milioni di euro. Uno si appoggia a un interruttore e la trasmissione più ascoltata d'Italia viene interrotta. Ma vi rendete conto, cari amici, che disastro? La sede che è aperta 48 giorni lavorativi all'anno, basta che uno si appoggi per caso a un interruttore. Xanax per fare ambulanza. Chiama l'ambulanza. Va bene, allora è successo che Iva Zanicchi ha fatto saltare il collegamento perché ha appoggiato un cappotto sull'interruttore. Vabbè, sembra di stare nel film La pallottola non spuntata. È colpa della Zanicchi, è Cruciani che non vuol far parlare delle quote rose. Ma e stacca favore, tutto già il fatto che sia a favore delle quote rose già mi dà un fastidio. Non sto dicendo questo, sto dicendo, ma lascia stare gli emendamenti in questione di ieri. Ti sto dicendo che evidentemente in questo paese uno shock positivo ci vuole, altrimenti noi il 60% delle donne in Parlamento come la Svezia ce ma le ma Berlusconi scordiamo. È innamorato della Pascale o no? Sì, molto. È molto innamorato. Da che cosa lo vedi? C'è un indizio che ci può rivelare di questo innamoramento? C'è una cosa che può rivelare? Una cosa la può rivelare? No, non una. Posso rivelare niente. Un indizio, cioè una, ma lo vedo, uno sguardo. Da guarda, uno certo, sguardo, da come è carino con lei, da come è gentile, da come è amorevole, da come è protettivo. Protettivo, è molto innamorato. Cioè, secondo te questo matrimonio sicuramente ci sarà? No, questo non te lo so dire. Però lei certo è stata un po', quando ha detto, no, rinuncio a tutto, quello l'ha un po' messo sotto pressione, no? Lo sta mettendo un po' sotto pressione. No, ma non lo so, guarda, francamente. Tu lo faresti questo discorso da donna a un uomo? A chi? A un uomo. Mi sposi e rinuncio a tutto. Diciamo la verità, non lo faresti. Sì, lo farei. Ma non è vero. Cioè, faresti come la Pascale. Dici, pur di sposarti, rinuncio a tutto, cosa dipende, che non si può fare, peraltro. Franca, appunto, non lo so, a parte non si può fare in Italia. Tutto, questa è stata furba, forse no? In America si può fare. È stata furba. No, non sto dicendo, a parte questa roba qui non l'avevo neanche letta, me la stai dicendo tu, quindi io non guarda, giuro. Il fatto quotidiano lo ha scritto. Sei una roba. Non è che leggo la Bibbia tutti i giorni, scusami, Dai, su. Comunque, volevo in conclusione chiederti cosa ne pensi della tua Scusi, se abbiamo anche da non venire siamo in campagna elettorale, Cruciale, devo prendere vabbè tutto, ti rinviterò la signora la giaguara di Berlusconi. Com'è che Berlusconi è così innamorato della Boschi? Perché le piace così tanto? Ma chi l'ha detto? Perché gli piace così? Beh, lo dice lui. Lo dice che è brava, che è molto televisiva. Che è brava, che televisiva. Vabbè, più di questo. La vorrebbe con Forza Italia. No, ma scusa, ma perché? No, ma qualche volta l'ha detto. No, ma qualche volta ha detto perché questa qua si deve candidare con loro. No, non l'ha mai detto. No, ha solo espresso giudizi sulla preparazione e sulla telegenia. Si dice così. Non sono, ma secondo te uno fa bene a sposarsi a 76 anni? Ma se uno è felice, se uno è innamorato. Sì, ma perché uno deve sposarsi? Vabbè, guarda, non lo dire a me. Guarda, io non lo rifarei più. Forse per te non lo faresti più. Perché dai un consiglio a Berlusconi, non lo rifare. No, io. Ognuno deve fare quello che crede, insomma. Che crede. Tu non ti sposeresti più? Adesso dico di no. Adesso dici di no. Poi magari a 76 anni cambio idea anch'io. Comunque, secondo me, guarda, devo dirti la verità. La Rossi è... Cioè, la Rossi... No, la sarebbe... Pasquale, io mi confondo, il metro alla badante, le cose. La Pasquale è molto gelosa. Tu sei molto gelosa? Io sono molto gelosa. Sei molto gelosa. Ma di chi? Del dottore, no? Sei possessiva. Di tutto, quello che, carità, che è nella mia... Carità. Nella mia... E zona... sei fidanzata adesso? No. Non sei single? Sì, sei sul mercato, come si dice in termini. Non sono sul mercato perché non mi interessa l'articolo, capito? Cioè, non ti interessano gli uomini? No, io adesso ho un altro... L'Europa? No, al di là. Cioè, un'altra cosa. Sono entrata in una dimensione dove sto bene con me stessa. Con te stessa. Sei single e non vuoi uomini, non vuoi rottura di scatole, non vuoi fidanzati. Esattamente, perché siete una gran rottura di scatole. Mi dovevo occupare anche di questa roba, non ce la posso fare. In questo momento tu sei l'opposto di Berlusconi, in questo momento, del dottore. No? Io non riesco a occuparmi di me stessa, capito? Non riesco a trovare 5 minuti per andare, che so, a fare una roba. Figurati... Anche l'idea di avere una persona da... Le confessioni private, qualcosa sono riuscito a estorcere, però. Le confessioni private di Licia Ronzulli. Vabbè, ma non c'è niente di male. Sono... Preferisce un cane, diciamo, un uomo. No, neanche, anche il cane porta via troppo tempo, non ce la posso fare. Io ho mia figlia, sì, il lavoro, e stop, non mi... non voglio gli uomini, dillo, non voglio uomini. No, non voglio uomini. Non voglio uomini. Non voglio uomini. Beh, questo siamo a top qui, Almeno da qui al 27 maggio. Vabbè, ma adesso lasciamo perdere il 27 maggio. Maggio. Poi dopo la campagna elettorale magari mi va... Che succede il 27 maggio? No, 25 maggio si vota e magari subito dopo il voto l'ultima ho cosa la possibilità di prendermi cura se di me stessa. Se Berlusconi candidasse... Anche dal punto di vista candidasse personale. Dudu, quanti voti prenderebbe? Tantissimi. Prenderebbe tanti voti, eh? Sì, tantissimi. Tantissimi. Anzi, secondo me bisognerebbe fare qualcosa. La lista Forza Dudu. Aspetta che non mi viene, una roba tipo... Vabbè, Forza Dudu, vabbè. No, una roba tipo... Fai come Dudu, apri un club anche tu. Fai come Dudu. Questo è terrificante. Perché vabbè. È bellissima. Cioè, se candidasse Dudu prenderebbe più voti di tantissimi deputati che ci sono ma adesso. Ma non Dudu, cioè... Beh, Dudu, Caligola Dudu nominò senatore il cavallo, quindi si può fare, no? Caligola, vabbè, sa Caligola. Licia Ronzulli. Sono molte persone che amano... Dopo questo sputtanamento totale, dopo l'interruzione delle trasmissioni, tornerà. Anche pubblicità. Un abbraccio. Non lo so se torno, vediamo. Sì, torni, se ti comporti... Io mi comporto sempre bene, se... Vabbè, sei stato fin troppo gentile oggi. Attenzione. Pubblicità. Posso dare? Dovrei mandarti a quel paese, come mi ha detto il mio amico Mirko Casazza, che adesso... Ma chi è? Mi ha mandato un messaggio. Ma, è un francamente, amico che sta del giudizio dice, del signor Casazza, io francamente me ne sbatto del giudizio del signor Casazza. Pubblicità, dai, pubblicità, dai, pubblicità. Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili. Alberto, provincia di Cagliari. Tra poco abbiamo due ospiti qui, tra cui quella che ci ha prima creato questo piccolo disturbo. Alberto, provincia di Cagliari, perché stava andando tutto perfettamente. Poi è arrivata lei. Era tutto perfetto. Era tutto lineare, perfetto, splendido. Poi è arrivata una persona che amo alla grande, che amo tantissimo. L'adoro. Che boom, tutto finito, crollato tutto. Va bene. Alberto, provincia di Cagliari. Pronto? Dimmi, caro. Ciao Cruciani. Volevo dirti una cosa. Mi dà fastidio la tua ipocrisia. Quali ipocrisia? Mi dà fastidio. Sì, rasenta anche un po' la schifezza per certi versi. Cioè, fammi un esempio, dimmi qualcosa di concreto. Perché se mi sì, sentire, sì, sì, sì, ci arriviamo subito. A proposito di quello che è accaduto alla signora Mussolini, insomma, la questione vero presunta, hai dimostrato comunque di essere fortemente rammaricato, fortemente toccato da questa vicenda, e non hai invece minimamente, a mio avviso ovviamente, non hai minimamente considerato o comunque in maniera marginale quelle che sono state magari le vittime dei suicidi, per gli imprenditori che erano comunque in crisi con le loro aziende. Questo che, ma lei mischia due cose. Io ho detto semplicemente che oggi titoli sulle prime pagine dei giornali, titoli sui siti internet, sono dedicati giustamente alla vicenda della signora Mussolini, con i sospetti tremendi sul marito di avere chiamato le baby squillo e di essere comunque un frequentatore di minorenni. E ho detto semplicemente che mi dispiace per il fatto che una persona che non c'entra nulla, ma lo direi per chiunque. Ovviamente lo direi per chiunque, ma siccome si parla della signora Mussolini, mi dispiace. È stato un soffermarsi più del dovuto. Io ti ascolto ogni sera, E francamente... Che vuole che le dica? Devo essere anche cinico su questa cosa qua? Lei vuole che sia cinico anche su questo? No, semplicemente un'unica linea di condotta, o in una condizione o in un'altra. Lei mischia due cose diverse. Il fatto che io dovrei essere affranto, piangente per quelli che si suicidano, per quelli che stanno male, e questo ci sta ovviamente, ci può stare, e il fatto che io ho detto mi dispiace per una situazione drammatica che sta vivendo la signora Mussolini a causa di una cosa che forse ha commesso suo marito, perché certo è una cosa terribile se l'ha commessa. I PM, gli inquirenti oggi pomeriggio dicono che ci sono prove incontrovertibili del fatto che il marito della signora Mussolini abbia frequentato le baby squillo, le cosiddette baby squillo. Certo. È o no una cosa terribile? Oppure lei è contento che la Mussolini sia coinvolta in questa cosa? Ci mancherebbe. Io mi soffermavo proprio su questo aspetto, appunto, che secondo il mio modesto parere era comunque, c'era una disparità di trattamento, una disparità relativa anche all'informazione. Ho detto una cosa che riguarda l'attualità di oggi. Poi non mi rompete più le scatole, adesso cantiamo un po'. La zanzara è quell'odioso insetto. Gli amici della zanzara di solito sono sempre molto seri. Perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti-zanzara mi son messo il piede. Ma lei gira sempre intorno a me. Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Una volta col faccio e poi all'altro. Una volta nel braccio e poi all'altro. Prendila, scherzala, ti ho beccato. Eccoci qui, Alessandro da Milano. Tanto so che ci sono tutte telefonate contro di me su questa vicenda della Mussolini. Io non ho fatto niente, qualcuno mi dice sei troppo questa volta non hai fatto nulla, è strano, eh. Beh, che lo dica io. Ma che cosa dovevo fare? Questa volta non hai fatto nulla, hai detto anche stranamente una cosa di buon senso. No, ma scusa, e dico stranamente. Che cosa devo dire? Senza sapere come va a finire questa storia, che quello è un porco che frequenta le baby squillo, che frequenta le ragazze minorenni per fare sesso. Che cosa ne so io? Cioè, i PM dicono che ci sono cose incontrovertibili. Vedremo. Punto. Sentiamo Alessandro, avanti, cosa ha da dirmi lei? Buonasera, io purtroppo sono esattamente come appena fatto nella premessa. Una piccola annotazione, per quelli che magari sono più giovani di me, invito ad andare a vedere su YouTube i video nei quali l'onorevole Mussolini, dalla Barbara D'Urso, da Maurizio Costanzo, da Giletti, si scagliava contro tutti i pedofili o presunti pedofili, facendo un sacco di pubblicità. Ma cosa c'entra questo? Ricordo addirittura che dava dei possibili potenziali pedofili a chi leggeva Lolita, si ricorda? Ma la responsabilità penale è personale, lo sa o no, in un paese civile? Che c'entra che il marito, il fratello, è la persona? Parenzo, si chiama sputtanamento. Sullo sputtanamento l'onorevole Mussolini ha costruito mezza carriera, capisce? Ho capito, ma adesso lei sta parlando di una cosa. Lei sta parlando di una cosa. Sì, però lei sta parlando di una cosa di cui ancora non si conoscono bene i contorni. Ma per carità, oggi per carità, siamo ancora nella fase delle indagini. Queste notizie. Senza dubbio. Non ho detto che l'onorevole Mussolini è una delinquente, si deve vergognare. Dico semplicemente che un briciolo di sputtanamento, esattamente come lei ne ha riversati, quintalate, per mezzo di mezzi molto più potenti della zanzara, cioè, siccome lei usa l'attacco alla Mussolini come o comunque una donna irruente in televisione, allora lei è contento perché un po' viene sputtanata da questa storia un po'. Io non sono contento, dico solo che è inevitabile che accada, proprio perché la Mussolini, a differenza di molti altri colleghi onorevoli di suoi, ha costruito molto della sua carriera su questa cosa. Voglio dire, ma questo l'ho detto io, la cosa terribile per Alessandra Mussolini è che lei ha costruito una buona parte della sua recente carriera di parlamentare sulla difesa dei minori, eccetera, eccetera. E ovviamente no, questa cosa difesa dei minori, è ancora... sì, sulla difesa dei minori, ma io mi ricordo quando andava da Giletti o da Costanzo a sputtanare senza nulla sapere su persone neanche condannate, ma accusate di aver fatto gli stessi reati di cui ha accusato il marito. E adesso un minimo di sputtanamento. Ma adesso questo non lo so se ha mai sparato su... Scusa ma Alessandro, guardi, su YouTube Alessandro, è pieno. Su YouTube è pieno. Purtroppo la rete in questa ragione Grillo è una memoria incredibile. No, ma va bene, io fare un salto. Sì, d'accordo, però lei fa un collegamento tra quando la Mussolini attaccava, tra quando la Mussolini attaccava presunti pedofili, eccetera, eccetera, esatto, e il marito esatto. adesso coinvolto in questa storia. C'entra. Francamente certo. un collegamento, è un collegamento piuttosto così complicato da fare. Comunque la responsabilità è personale, cioè non è che lei c'entra qualcosa in questa storia. Poi ho detto che inevitabilmente di questa storia si fa grande pubblicità perché lui è il marito della Mussolini, altrimenti sarebbe uno accusato di cose tremende di cui si occuperebbero i giornali con un piccolo trafiletto. Ma voi sapete da Milano quale canzone mi dovete mandare adesso? Una canzone che si chiama, che ha come titolo La Verità. La Verità. Promette che farà, chissà qual è la verità, perché nel cuore forse sa quello che fa, però il potere è una poltrona comoda. Un uomo corre nella notte e nella via, un altro lo rincorre. Allora, io devo dire la verità, se uno, io so chi è l'autore di questa canzone, Iva Zanicchi, buonasera, non no, sei tu, ovviamente, no, no, perché la voce è da io. Uomo, non, sì, ti, sì, non ti sei ancora trasformato in uomo. È Vasco, no, allora, la mia voce mettiamo, è cristallina, adesso non fare, è Vasco. Non fare, esatto, è una voce che è molto vicina a quella di Vasco Rossi, però non è l'imitazione di Vasco Rossi, perché è una canzone originale, sì. Non è una canzone, un rifacimento di Vasco Rossi, è ovviamente il timbro di voce, sembra quello, eccetera. Tu adesso conosci la persona che è qui di fronte a te, che ha fatto questa canzone, che ha composto, credo, questa canzone anche nelle parole, che è un deputato, e nella voce, che è un tuo collega deputato europeo. Sì, certo. E cosa penso? Che voto dai? No, il voto, no, oggettivo, oggettivo, no, non no, fare la buona, devi essere... No, no, no, sì, no. Sì, sono sì, molto, molto sincero, molto... Guarda, la canzone bisogna ascoltarla tutta, il testo è molto coraggioso, è molto carino, a me è piaciuto molto, l'ho già letto, devo dire complimenti, cantato bene, lui naturalmente canta un po' come Vasco Rossi, ma non è che vuole imitare Vasco Rossi. Vabbè, lo imita, io per esempio, io canto e sembro la Figgera, no, a volte... Ma non è che voglio imitare la Fitzgerald. È la Fitzgerald. No, scherzo, dai, su shock. Vabbè, allora, va bene. Allora io devo, la sufficienzona 10. No, vabbè, sufficienzona hai detto, dai. Beh, questo è l'X factor della scusa, della... Dai, a me piace. Io guarda, io sono colpevole, devo dire la verità, perché questo signore che adesso presenteremo, sì, che è un europarlamentare. Aiutami, brava, nella io appunto, quando abbiamo fatto uno spettacolo noi a Bruxelles, molto carino, io l'ho invitato, lui è venuto, ha cantato, ha avuto un grande successo, ho detto "Senti, caro, tu dovevi e dovresti fare il cantante, non la politica", dice. Lui mi ha preso sul serio, un CD. Allora, Tiziano Motti, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, Tiziano Motti è europarlamentare, non possiamo più dire ormai dell'UDC, perché è dell'UDC sempre, eletto con l'UDC. Sai che noi cambiamo, ogni tanto si cambia nome, no? Quindi Popolari per l'Europa, eccetera. Vabbè, però, no, io sono sempre dell'UDC. Che però non... Fino alla fine, come ho detto all'inizio, rimango con il simbolo che... Però non ti ricandidi al Parlamento Europeo. Però non mi ricandido, no. Non e mi sei anche un po' deluso? No, non sono deluso. Questa canzone è la dimostrazione della delusione. Sai no, non è la dimostrazione della... Però vedi che ho un cerotto sulla bocca, no? Sì, sì. Perché io credo che quando sei un politico, poi forse non la puoi dire neanche tutta la verità, nel senso che devi sei schierato, quindi devi dire quella parte di verità in cui credi. Ma anche quando fai l'imprenditore, in realtà tu fai l'imprenditore. Beh, no, io non no, l'imprenditore no. Che cosa vuoi? Beh, una parte della verità non è che dici sempre la verità anche l'imprenditore. Ma chi? Ma chi? In generale nelle trattative, nelle cose. Ma sì, il venditore deve vendere un prodotto, no? Esatto. È come il candidato in campagna elettorale deve vendere il meglio di sé, deve dare il meglio deve di sé. Deve vendere un sogno. Diciamo che questo qua, questo CD che hai pubblicato, sì, che però è titolo gratuito, diciamolo subito. No, allora, non è che... due cose rapidissime. Allora, non è un CD, ma è un singolo che lancia un album che poi uscirà il 29 di aprile. E Beneficenza. Si chiama La Verità. Tutti gli incassi sono per il Telefono Azzurro e per Unicef. Oh, diciamolo subito, che sennò dicono: ecco la marchetta. Hanno fatto la marchetta. Allora, perfettamente. Certo, il ricavato va al Telefono Azzurro. Al Telefono Azzurro e anche ad Unicef a titolo personale, come io devolvo personalmente. Ho garantito anche 10.000 euro. Sì. All'uno e all'altro, quindi sono 20.000 euro, indipendentemente dal fatto che, cioè, non sono Mick Jagger, no? Quindi non credo che incasserò, però insomma si contribuisce. Speriamo che incassi più di 10.000 euro, sennò siamo in rovina. No, ma è quasi impossibile. Ma al di là di quello, mi piaceva l'idea di fare ma com'è che fa il motivo? Il motivo dice la verità, com'è? La verità, quale sarà? La verità è che forse non c'è la verità, perché Vasco Rossi, no, basta, perché posso cantare, ce l'hai sotto, facciamo. Beh, cioè, no, ma dal vivo è molto più bella. Però lei, secondo me. No, secondo il concetto che esprimo in realtà non è sui politici, sulla politica, è più generale. Cioè, quando noi ascoltiamo un programma televisivo, quando leggiamo sui giornali, dobbiamo renderci conto che anche in buona fede tutte le informazioni che ci vengono date sono filtrate, nel senso che uno poi ti dà l'informazione con il colore con cui la vede lui, no? È come se avessimo tutti degli occhiali. Dicendo che non dobbiamo credere a nessuno. No, non è che non dobbiamo credere. Infatti noi non ci crediamo. Guarda, io non mi ci metto neanche più a voler, ma avrà ragione Tizio o Caio. Anziché perdere tempo a cercare di scoprire chi ha ragione, non tanto ci si candida più. No, ma non parlo dei politici, dico in generale, anche quando un giudice ti giudica, no, tu potresti essere colpevole, ma magari vieni assolto perché la rappresentazione della verità è stata fatta meglio da un avvocato magari che dall'altro. Cioè, stai dicendo che la verità comunque non esiste. La verità è quasi sempre soggettiva in base al punto di osservazione, al periodo storico. Ma Casini dice la verità. Lei fa meglio il cantante o il politico? Ma lui sicuramente dice la verità. Lei si sente più preparato come cantante? Come io mi sento preparato come persona come che cantante. Vive e che vuole esplorare tutte le forme di comunicazione, perché a me piace comunicare, e la canzone è una forma di comunicazione complementare a quella politica. Motti, perché puoi dire le cose in modo diverso. Mi faccia un po' Vasco, io sono nostalgico, però non è che... sono nostalgico. Vedi, del suo Vasco. Io per fare questo album, perché poi l'album è fatto di tante canzoni, mi sono dovuto devaschizzare, perché la voce quando, è rimasta la stessa. Da quando ho 14 anni io mi diverto sotto la doccia in macchina a cantare solo le canzoni di Vasco, no? E quindi col produttore artistico Domenico Castaldi, bravissimo musicista, e lui mi dice: no, ricantala, la devi fare diversa, perché poi ti dicono che vuoi imitare. Però un po' gli è rimasta l'impronta, ma sì, l'impronta ma del Blasco. Ma è inevitabile, ma è anche un tributo involontario che io sono felice di fare. Però rimandatemela questa verità, perché mi piace molto. Però scusi, Monti, lei è rimasto qui al Parlamento 5 anni, giusto? Sì, quasi. Quindi tornerà al suo lavoro. Non mi ricandido, perché ho anche delle aziende, ho delle responsabilità nei confronti. Perché ci ha perso soldi a far politica alla fine. No, perché ci sono 50 dipendenti che devono essere garantiti, no? E quindi no, è un'esperienza fantastica. No. Ma come si fa a dire che un deputato... Beh, perché se uno ha un'impresa importante, spesso sono tanti professionisti che dicono: noi abbiamo perso un sacco di soldi facendo politica. Che, ma dai, no, io voglio solo essere più vicino alle mie aziende, perché lo meritano. Com'è che fa? Com'è che fa? Che farà la verità. Com'è? Come fa? Non lo so, aspetta. Vai. Mi vuoi far cantare dal vivo? Dai, per forza. Dai, canta. Aspetta. Quello che fa... però il potere è una poltrona comoda. Un uomo corre nella notte nella via. Un altro lo rincorre, non sai che cosa sia. Questo è Casini che corre. Dai, però fate ascoltare il ritornello un attimo. Il ritornello, che è quello che si deve memorizzare. E che. Qual è? Qua. La verità. Quale sarà? La verità è che forse non c'è la verità. Lei non si staccherà mai da Vasco Rossi. Non staccherà mai. Ma è giusto che sia così, il timbro di voce non può. Ma ascolta, io ero un grande fan di Zucchero. Zucchero, mi sembrava di ascoltare Joe Cocker quando cantava. Com'è che fa Zucchero? Sai qualche cosa? No, di Zucchero? No, sì, lei lo fa pure Zucchero. No, non lo faccio Zucchero. No, non lo faccio. No, perché non lo saprei fare e non sarebbe rispettoso. Va bene, voglio dire, ognuno ha un riferimento. No, poi piano piano maturerò, se continuerò a fare anche delle canzoni. Voglio dire, non è che devo fare il cantante. Ma io non ho capito. Domani noi ci saremo, ci sarà questa conferenza stampa dove al Parlamento Europeo lei presenta il disco Questa La Verità. Questa iniziativa benefica. Poi dicono dell'Europa, capito? Che fa? Che? Perché si Perché no, sto litigando col tecnico, mi spacca le orecchie. Mi può abbassare sto cacchio? Ma non è casa sua. Prima ci spieghi. Ma scusi però adesso, mi faccia girare i santissimi. La invitiamo. Ci spegne la radio, fa un blackout di 15 minuti facendo un danno alla Confindustria enorme. Ho fatto guardi, solo del bene. Danno... Ho fatto solo del bene questa trasmissione. Poi stiamo ascoltando. E io l'ho spento almeno 3 minuti. Stiamo ascoltando Ronzulli stava dicendo qua, delle che cose si muove, giuste. Suda, ma non metti la cose, ne balla le orecchie, se togli la cuffietta e namo e Ivona. No, stavo dicendo che la Ronzulli stava dicendo delle cose giuste. Allora quando uno dice cose giuste, voi fate di tutto per interrompere le persone. Dai, facciamo. Sai che mi ha scioccato a me sta cosa alla manovella lì. Ti credo, ha fatto un danno economico pazzesco. In effetti sì. C'è Squizzi che ha chiamato. Ha chiamato Napoletano. 200.000. Diciamo cacchiate. 200.000 che? 200.000 euro di danni. Ha bloccato. È interruzione di pubblico servizio. È un reato. Ma se è un reato. Se ho fatto del bene a questa trasmissione. Ti stava andando malissimo. Ma è come se lei avesse bloccato le rotative di un giornale. Si rende conto? No, lei come se improvvisamente si appoggia a una manovella tu. Bloccate le rotative di un giornale. Se il giornale Repubblica l'unità va bene. Secondo lei se a Napoletano il blocco le rotative? Perché improvvisamente passa i Vazzanicchi, ton, blocca le rotative. No. Ci dispiace, il giornale per 20 minuti non esce. Amore, ma scusa, ma io... Eh sì, i Vazzanicchi si è appoggiato a una manovella. 200.000. Non ti lascia parlare. 200.000. A parte che, scusate... Noi qualcuno siamo, ha già calcolato. La gente sa da dove stiamo trasmettendo? Da Strasburgo. Allora, tu entri, c'è la regia, ti metti lì, non c'è una sedia, niente. Allora vedo una manovella che vedo una manovellina che sporge e dico, ci attacco il cappotto. Ci attaccato il tappo. Ma chi è la manovellina? On, off. Lei giustamente come nel film La pallottola spuntata, c'è scritto on, dice nessuno mi prende il mio cappotto, il mio cappotto chi me lo vedo, no, appoggiamolo qua tu il... blackout 200.000 euro di danni, ma parli solo te porco ca... dovevate sentire. Cazzo, io non capisco cane. Io non capisco la francese, ma dovevi sentire il tecnico più tempo a me. Cosa ha detto? Puttana no, più tempo voleva dire più tempo. Sì, lo so, è un'esclamazione. Ciao Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda, ma poi invece s'appoggia proprio addosso a me. Ma volevo capire se ha trovato il busto che avevano rubato. Ma che adesso fra una ventina di giorni penso invece che mi arriva il busto che ho fatto fare di marmo. Di marmo l'ho fatto fare a Bari e quindi aspetto che sia pronto e faccio una grande manifestazione con la speranza che non si prendano quello di marmo. Non si può spruzzare lì di faccia la manifestazione non al busto, al busto di Giorgio Almirante, rendendogli onore alla tomba dove lui ha. Faccio dire una messa alla faccia dei ladri dicendogli che io ho rifatto il busto. Al netto di tutto vorrei ricordare che Almirante è stato quello che ha fatto parte delle leggi razziali, ha scritto sulla difesa della razza. Ma non faccia ridere, a 17 anni lei che adesso sarà un barba blu, un vecchio, ma quale, un ma vecchio quale barba qualsiasi blu? Può condannare un giovane di 17 anni che si stava per prendere la licenza. C'erano giovani diversi. E gliel'ha fatto scrivere, tenga presente che il c'erano titolo, cara, dei giovani che stavano dall'altra parte. Ma non mi faccia ridere, ma non mi faccia ridere. I giovani partigiani di 17 anni c'erano. Ad esempio, comunque vabbè, ancora là stiamo. No, vabbè, stiamo ancora là. Ma è possibile che così rincoglionito lei, ma... che all'età che ha, ancora si va a pensare un uomo che è morto a ma 77 certo, anni ma quello, e aveva 17 quando l'ha scritto che forse lei non era manco nella mente di sua madre e di suo padre. Quello... Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda. Bene, bene. Siamo qui, 800240024. Questo era l'ultimo cat fight, come si dice, l'ultimo duello tra David Parenzo e Donna Assunta Almirante. 800240024. Vorrei sentire ancora Sandro da Bologna. Sandro? Pronto? Sandro? Sì, vai. Pronto? Dimmi. Dimmi, sì, ti sento. Allora, io vorrei parlare della Mussolini. Allora, mi spiego. Io vorrei essere garantista, come dice lei, giustamente. Però io ho 50 anni che ormai sono garantista e i risultati sono quelli che vediamo. Allora, uno fa un omicidio, viene preso, dopo non si condanna perché non si sa mai perché, come dice lei delle volte, prende un anno, due anni, poi dopo un po' è fuori. Se non lo prendiamo, lo cerchiamo, però quando lo prendiamo non gli facciamo niente. E allora, ma allora, che c'entra questo con la vicenda Mussolini? Che no, cosa c'entra Mussolini, con la vicenda allora, Mussolini? Lei Adesso, se questa cosa qui va avanti ed è vera, tutto quello che lei ha sempre detto, per esempio di Fini, che ne ha, l'hanno massacrato, che non è più un cristiano, no, per quello, sì, che ma questo non c'entra niente, ma stiamo parlando di un'altra cosa, cioè stiamo parlando di un'indagine su prostituzione minorile presunte responsabilità di un signore che è il marito di una deputata, di una senatrice, non mi ricordo che manco è cos'è in questo momento, di Forza Italia, punto. Questo, di questo stiamo parlando, ha capito? Sì, però lei che fa tanto che parla dietro tutti, dovrebbe guardarsi. Ho capito, ma cosa devo dire su questa cosa qua? Che cosa devo dire su questa cosa qua? Me lo spiega? Che cosa devo, mi devo mettere a ridere? Devo essere contento perché la Mussolini è coinvolta in questa cosa? No, io non sono contento, però quella gente lì, quando è coinvolta in quelle cose lì, bisogna anche... Ma quella gente lì cosa? Cioè, è questo il problema di chi... Ma il problema di questa gente che chiama... Mamma mia. Ma nel core è che non ha, il problema di questa gente che chiama dicendo queste sciocchezze è che non hanno capito la differenza tra la responsabilità che è personale, quella del, e il fatto che questo signore sia il marito della Mussolini, che non c'entra nulla. Il dramma, cioè, se ne parla semplicemente perché è un cosetto VIP, perché è sposato con la signora Mussolini. Ma possiamo ricordare che l'accusa è personale, ancora senza fare dei linciaggi di un'intera famiglia? Sembra così banale, no? Da dire? Se viene beccato, non pensa a quello che va in corso di fronte ai figli? Sì, io non sono, cioè, questo, questo se infatti è responsabilità sua, però. Non faccio infatti, certe cose. Ma infatti stiamo il mio numero parlando... non viene preso. Non viene stiamo parlando della... il mio numero. Sì, ma certo, ma stiamo parlando infatti della presunta responsabilità del signor, non mi ricordo manco come si chiama, cioè il... lei conosce il signor Mussolini? Io? No, stavo pensando alla manovella. Ancora, basta, dai, finita. No, ragazzi, mi ha distrutto la vita. Vabbè, tu certo, devi sentire il tecnico, ma... cosa non mi ha detto. Cosa ti ha guarda, detto? Peggio di no, no, guarda, ride. Lei però, guardi, peggio di Benigni a Sanremo, ragazzi, allora, questo. Io vorrei sapere, secondo lei Berlusconi si sposa con la Pascale? Sì. Si sposa. Io glielo auguro, sì. Spero di sì. Anzi, ma se quando? Vuoi, presto? Anche le... Presto? Ci sposeremo a maggio con tante rose, con tante rose. E poi c'è un'altra che potrei dire: sposi, oggi si avvera il sogno e siamo sposi. Ti piace? Questa è la dedica che Iva Zanicchi fa a Berlusconi, sì, per il suo matrimonio. Io spero, spesso. Ma lui ha detto che è troppo vecchio. Ma va là, troppo vecchio. Ma perché? Beh, giovane, vecchio? Non è mica giovane. Giovanissimo non è. Però piano piano va verso 50. Charles Chaplin si è sposato vecchissimo e ha avuto figli da questa moglie giovane. Te lo ricordi? Ce le augura anche i figli. Per lei, beh, sì. È difficile però a 76 anni fare figli per un uomo. Per un uomo è difficile, per una donna. Anni bisogna essere... Per una donna 70 anni è difficile. Ma per una donna. Per un uomo Berlusconi ne ha già 5 di figli. Sì, adesso io non lo so. Ma le pare possibile? Ma sembra possibile che faccia un altro figlio? Ma lei ha detto che rinuncia a tutto, a tutto il patrimonio pur di sposare Berlusconi. Ma io adesso questo. Ma l'ha detto davvero? Sì, lei ha detto in intervista al Fatto Quotidiano. No, ci credo. Ma non si può rinunciare. Lei, che è un esperto di questo, signor Motti, si può rinunciare? No, no, ce l'ha legittima in Italia. Ce l'ha legittima, c'è. Poi dopo puoi fare una donazione successivamente. Certo. Però intanto redditi, cioè il minimo redditi. È lo, altro, lo che, devi, altro, che, altro che eredità, no? No, altro che legittima lì. Altro che lì, come direbbe Motti, la verità è tutta da capire, la verità di quel no, matrimonio. No, però guarda, però. Aveva la ragione la Ronzulli, non per imitarla, però io l'ho incontrati due volte e sì. Devo dire, lei è molto carina, una donna però è una che marca il territorio, come dire, no? No, beh, lei certo sta vicino come al i cani, presidente, come fanno i cani. Sempre, tu la vedi sempre, lei è vicino al presidente. E fa benissimo. Perché? Perché lui, sai, c'ha il vizietto, magari si guarda attorno, invece lei lo bastona. Lo bastona. No, no. Cioè, molto gelosa, no? Io credo che lei sia gelosa e fa benissimo. Non mi risulta che abbia il vizietto, che dice lei. Cioè, mi sembra molto... No? No, lui magari c'ha l'occhio lungo, guarda se c'è una bella ragazza, giustamente... Sì. E lei? No, io non... No, ma lei, guarda, questa, è molto... nuova questa cosa che lei mi dice. È molto, di... sono molto affettuosi, vederli assieme... Sì, è bellissimo, è un quadro. No, bellissimo, e mi sembra che ci sia dell'affetto vero e sincero da parte sincero. Di lei. Di lui è che è facile, perché lei è una bella... Una bella ragazza. Una bella ragazza, giovane. Vabbè, lui è circondato da bella ragazza, non è che adesso... Sì, non è... certo, però c'è un affiatamento, io vedo, ho visto questo. Ma tu lo sai che l'onorevole Motti ha un cane uguale a Dudu? Identico? No. Me l'ha detto... Ma adesso gli faccio il sito, allora, e poi posso... lo candido. Se si candida Dudu, no. Voglio candidare Biscotto. Occhio. Che tra l'altro è un nome. Guarda, si chiama Biscotto. Piccolo Berlusconi Emiliano, eh? Lo so, io, poi, lui, poi si è candidato con Casini. Il mio Ascolta. Cane è Biscotto e ha però anche lui la sua ragazza. Ma non le mancherà questo posto? Si chiama Caramella. Non le mancherà questo posto? L'ultimo giorno una, che lei, quando lei farà le valigie... L'esperienza, e le esperienze devono concludere nel momento in cui è giusto che si concluda. Ma però io rimango, come dicono... Rimango a disposizione della politica. Ma dai, su, non usiamo queste che vuol dire, però? Allora, però qui c'è Sortentenna. Qui c'è Sortentenna. No, io non sono Sortentenna. Sì, lei è Sortentenna. Abbiamo Motti che non si candida più. Allora, lei deve dire azienda. Una parola definitiva su questa cosa. No, qua. Definitiva. Non è facile decidere di ricandidarsi alla mia età. Io l'ho fatto con grande amore e passione. Ma, dunque, per la politica, anche se la gente può sghignazzare. Si ricandida o no? Io sposi, no, io mi ricandido, certo, se Berlusconi me lo chiede, ma magari... che chiede, ma non ma chiede, quello non ma chiede niente, lei deve chiedere, andare lì a bussare, ma che gliene frega, no. Berlusconi, dai, su, no, non è vero, non gliene frega, no, niente, dice io... sì, se vuoi ti metto in lista, beh, metto in lista, però poi voti, ma, ci sia, ma siamo tutti candidati, sì, tutti volendo. Candidati, sì, volendo, tutti quelli... sì. Ma certo, tutti siamo candidati, però a me piacerebbe tornare in Europa, questo si può dire tranquillamente. No, se io se dico mi piacerebbe tornare in Europa, ma Renzi gli sta piacendo, io Iva. Mi lotto e fino all'ultima goccia di sangue e torno in Europa. Ma lì questo c'è gente... dipende da me. Va bene. Ah, non da Berlusconi. Renzi ti sta piacendo o no? Sì, penso che Berlusconi candida tutti. Ma tanto Berlusconi non te la dà una mano, come l'altra volta. Non te la dà una mano in campagna elettorale, inutile. L'altra volta non te la dà, non te la darà nemmeno stavolta. Dici? Devi fare da sola. Devi bravo, fare da sola. Bravo. Devi prendere le preferenze. Ognuno da sola, ma io, guarda, sono abituato a camminare e a fare. Renzi ti sta piacendo o no? Sai che io per Renzi. Hai un amore. Tempi non sospetti che fui anche sgridata dalle donne allora del PDL. Mi dissero, sì, parla per te, perché avevo detto tutte le donne, sì, del PDL, sì, sono, sì, innamorate di Renzi. Parla per te. No, è un ragazzo. Sì, un ragazzo sì, dall'alto della mia età posso dire. È un ragazzo che, sì, a me piace perché ha questa grinta, questa, sì, voglia di fare, che va bene, però sai cosa? Parla bene, va diritto al cuore della gente, alla pancia. Sembra Berlusconi. È molto meglio dire alla pancia, lo so, perché per me al cuore è molto meglio che alla pancia. Però sembra Berlusconi. Sembra un po' Berlusconi del 1994, assomiglia in età. Però voglio dire, adesso a parte gli scherzi, io mi auguro, cioè, se tutti, Berlusconi domani non ci fosse, tu... Renzi tutta la vita, sì. Se io, sì, va... Non mi vorrà Renzi? Mi vuole? Candidati con lui, perché non ti provi? Ma non si può passare da un partito io all'altro. Io non tradisco così. Mai. No, io sono lì, finché c'è Berlusconi lo dico. Comunque sempre. L'altra volta hai detto che i gay sono mezzi uomini. No, cos'è che non hai detto? È vero. Una cosa tremenda. No, è una cosa tremenda. Ti porta i braccialetti, no, sì. Guarda. Una cosa terribile, no, hai detto. No. Hai detto una cosa terribile. Allora adesso io ti ripeto tutto quello che ho detto a Sanremo. Hai detto una cosa terribile, devi chiedere scusa. Che hai detto? No, l'ho già chiesto, scusa. Io guarda che non ho paura. Vabbè, basta. No, non ho detto così. Fatemi sentire un attimo una cosa. No, adesso devi chiarire quella dei braccialetti. No, basta, dai. No, parliamo più dei braccialetti. Motti, allora sì, no, una facciamo cosa la definitiva marchetta a questa cosa. Certo, una cosa importante è gratuito tanto. Dai. È che la verità è anche un talent, perché, sì, ho deciso di mettere le tracce, sì, del brano, cioè proprio la voce divisa dalla batteria, sì, dalla chitarra, dal basso, eccetera, sì, gratuitamente a disposizione dei ragazzi, che possono farsi la loro versione remix. Bene. E anche cantare la loro versione rap, e quindi gli do voce perché poi alla fine si parla tutti dei giovani che disertano le urne anche per le elezioni europee, però è difficile coinvolgerli. Io com'è vorrei che, sentire la loro versione che fa? Della verità. La verità! Quella è un'altra. Mi fa male! Quella no, è un'altra. La tua qual è invece? La verità, quale sarà? La verità è che forse non c'è la verità, eccetera. Bene, però partecipate, ragazzi, www.motti.eu. Grazie, ma nell'udici non voglio sapere presa, basta, chiuso, abbiamo finito. Devo parlarne con Pier Ferdinando tra una decina di giorni. Ma non l'ha più sentito io. Sono partito, ma è Luigi giusto, da Torino, no? via tutti, Luigi da Torino. Pronto? Luigi? Sì, dimmi. Pronto? Dimmi. Mi puoi alzare il volume del coso, che non ti sento tanto bene. No, devi alzare tu il volume, non io. Dimmi, dai. Aspetta, c'ho un maleducato qua. Ascolta, no, non ce l'ho con te, ce l'ho con un mio collega che sta servendo il pollo. Ascolta, scusa. Ma dove sei? In un ristorante? Dove sei? No, sono arrivato a casa, io avevo chiamato prima, poi non sapevo che sarebbe arrivato. Comunque, arriviamo al punto. Allora, intanto ho due punti da mettere. Vabbè, veloce, arriviamo al punto e poi dice abbiamo due punti. Arriviamo al punto, vai veloce, dai. Ok, ascolta, intanto il discorso è che anche se arriva gente nuova, facce nuove, voi state parlando delle quote rosa, mi diceva poc'anzi un mio amico che un certo che Mario Floriani si è auto... Mauro Floriani. Il marito da, oggi stasera siete avvelenati col marito della Mussolini, allora? Ma non me ne frega niente, né di lei, né della Mussolini, né di suo zio, né di suo nonno, né di suo cugino. Il discorso è sempre solo lo stesso. Noi ci stiamo coglionando e queste sono armi di distrazione di massa. Ma cosa è amministrazione di massa? Inizialmente queste cose qua si sanno, è inutile che le tirano fuori adesso. È chiaro. Ma si sanno che cosa si sanno? Eh? Cosa si sa? Che cosa si sa? Dimmelo. Cosa si sa? Cosa si sa? È chiaro che vicino ai soldi ci girano le puttane. È quello il discorso. Che ci sia gente che va con le minore, che ci sia gente che va con le minorenni, non c'è infatti non mi stupisco. Ma certo che fa schifo, non è voleva lui per sapere il Parlamento. Cioè, va bene, arrivederci Luigi, andiamo a questo qui per Stefano da Bologna, profondo. Stefano da Bologna. Pronto? Dimmi Stefano. Salve, io volevo dire un paio di cose sulla Mussolini. Secondo me ha due alternative. Una, mantenere la propria coerenza e poi dar contro se il marito poi risultasse veramente colpevole contro suo marito e poi il divorzio, ovviamente. Oppure questi sono affari suoi, scusi. Oppure certo, sono affari suoi quello sicuramente. Oppure dare dimissioni per star proprio con suo marito che secondo me ha un sacco di problemi. Vabbè, ma adesso lei dice che c'è un sacco di problemi, uno che ma hanno parlato fino adesso i pubblici ministeri e basta, dicono che ci sono prove incontrovertibili, dopodiché poi è tutta da dimostrare il fatto che il signor Floriani, come diavolo si chiama, vada con prostitute, con ragazze che si prostituiscono minorenni. Sarà da dimostrare o no? Dai ragazzi, però siamo seri su questa cosa qua. Poi per carità, se quello ammette, fino adesso ha detto di non avere fatto sesso, ha ammesso però i contatti telefonici, mi sembra di capire, no parente? Sì, sì. Cioè, ci sono state telefonate, certo, questa cosa qui è pesante. È strano che un uomo di quell'età chiami e queste... però adesso non è che si possa fare. Vabbè, va. E lo ci dico io, domani. Il processo a domani a Zanzara, ciao, a domani. Ormai è tutto degradato ormai. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire.